come passare al bar prima di tornare a casa a parlare alla radio e ascoltare la trasmissione. La Zanzara di Giuseppe Cruciani. Forza, dammi la pensione, dai caccia ai soldi fuori gli schemi. Forza, dammi la pensione, che voglio spenderla per fatti miei. Saranno solo 4 lire, ma in mano mia devo finire. Forza, dammi la pensione, che devo vivere con dignità. Insomma, alla fine, cari ascoltatori, sempre di pensioni si va a parlare, sempre sulle pensioni. Sempre di Danè, caro direttorissimo. Perché si parla di pensioni delle persone comuni e ci sono i sindacati già sul piede di guerra. Molto bene. Con la Camusso che dice 40 è un numero magico e intoccabile per le pensioni di anzianità. Ti piace a te quando la Camusso battaglia? Sì, perché finalmente se il governo vuole fare qualcosa di serio contro la CGIL deve andare, altrimenti che serietà c'è? Su questo non c'è dubbio. Non c'è dubbio. Sono d'accordo con lei. Ma ci sono anche la questione. C'è anche la questione delle pensioni dei parlamentari ritoccate, qualcuno dice piccola riforma, altri dicono grande riforma, comunque finalmente si è cominciato a fare qualcosa, ma insomma secondo alcuni comunque non si deve toccare niente. Per esempio il nostro amico Grassano, cioè Grassano. Ci sono molti deputati che sono preoccupati. Grassano è sempre Popolo e Territorio, sempre Popolo e Territorio. Grassano, mai sì. Toccare i diritti acquisiti altrimenti è truffa, lui che è stato condannato per truffa peraltro, sì. Ah no, è vero, è quello della truffa, cioè. Mai toccare i diritti acquisiti. I diritti acquisiti non bisognerebbe mai toccarli, perché se sono acquisiti vuol dire che uno per acquisirli ha pagato qualcosa. Io sarei dell'idea che se si toccano i diritti acquisiti dovrebbero ridare indietro i soldi di quelli che hanno pagato i diritti acquisiti, almeno. Se no è come se li avessero truffati. La lezione di Grassano. Fossi in Grassano non parlerei di truffa. Comunque, per carità. Dove siamo? Fossi in Grassano in realtà non parlerei forse. Ah, questo. Però giusta glossa la sua, tranne che con la Zanzara, non è evidente. Solo ancora Grassano a Bruxelles, scusa. un attimo. Ah, chiedo scusa. Fazio prende 2 milioni, Fabio Fazio, noi solo 4.500 euro al mese. Non capisco il collegamento che fa Maurizio Grassano. Ah, sempre ma sentiamo, ti piace Grassano? Ti piace così? Sentiamo. Che sembra che prendiamo milioni di milioni, ma rispetto a Fabio Fazio che prende, mi sembra, un contratto di 2 milioni all'anno, noi prendiamo 4.500 euro netti al mese. Hai voglia di farne di mesi prima di arrivare a 2 milioni, eh? Cosa c'entra Fabio Fazio? Vado ai matti quando mi fai sentire questa roba. Perché vai ai matti? Vado ai matti perché come si permette l'onorevole Grassano di paragonarsi a Fabio Fazio? Cioè sono due talenti diversi. Non è che sia... No, ma Fazio è sul mercato a differenza del signor Grassano, che è stato nominato in Parlamento e si lamenta dalla pure. Lega. Dalla e poi Lega, è uscito e ora è andato in questo Bobolo e Territorio e si permette pure di fare un paragone con Fazio, cioè, ma io non mi paragonerei mai a Michelangelo ad esempio. No, ma adesso sei pazzo, cioè hai affiancato Fazio a Michelangelo. No, ma io Parenzo non mi paragonerei mai ad esempio anche ai grandi mostri sacri della radio, a lei, al signor Renzo Arbore, mai mi paragonerei. Mussolini, prima conflitto di interessi dei viceministri. Mussolini chi, Benito? No, la signora Mussolini. Alessandra, sì. Poi sacrifici per noi, cioè prima viene la situazione del conflitto di interessi, che ci sono in alcuni casi i conflitti di interessi dei viceministri, partecipazione a, no, banche, a consigli di amministrazione eccetera, però alti pezzi di establishment. Qual è il collegamento tra le due cose? Mussolini: adesso prima devono dare, poi devono prendere, cioè prima devono dare informazioni trasparenti sui loro conflitti di interesse, su quanto percepiscono, su qual era il loro stipendio prima di entrare a fare i sottosegretari, poi giustamente anche noi in contemporanea faremo i nostri sacrifici, che problema c'è? Romano, parla anche il ministro, l'ex ministro Romano, il tuo amato ministro Romano. Ne sentivamo la mancanza. Queste cose sulle pensioni degli onorevoli potevamo farle anche noi. Non l'avete fatte però, amico mio. Ci voleva proprio un governo tecnico per la stretta vitalizia. E lo leggete a me, sono stato ministro fino a 15 giorni fa. Per la verità questa l'avremmo potuta fare anche noi. Col libretto nelle mani, Naturalmente i sindacati adesso chiedono incontri, concertazione. Beh, e allora noi facciamo un appello al governo Monti. No, fai un appello al governo Monti. Un caro, governo tecnico non ha nulla da concertare. Caro professor Mario Monti, già bocconiano, già uomo di Goldman Sachs, e per noi sono tutte cose positive. Ma un uomo di Goldman Sachs e della BCE può mettersi a fa bubuco a CGL, CISL e UIL? Avanti tutta, spread, attacco, pensioni, liberalizzazioni, ordini professionali. Editorialino moderato di Davide Parenzo, però io concordo in questo caso al 100%. Berlusconi di ieri, perché poi no, ci viene dal cuore. Ci viene subito stiamo un'emozione. Subito meglio. Sì, siamo subito un po' depressi. Soprattutto però, quando dice ieri alla presentazione del libro di Angelino Alfano. No, dove è andato sì, ieri? C'era la presentazione del libro di Angelino Alfano, c'era Bruno Vespa, c'era anche Maroni. Chi c'era anche? Maroni. Ma Bruno Vespa cosa fa? Va a presentare sempre il libro, il suo. In questo caso è degli altri, ah, di Alfano. Ma il nostro, perché non viene a presentare? Sentiamo quando schiaffeggia Maroni. Ma il tuo libro l'ha presentato? Signor no, Vespa. No, quello no, su Cesare Battisti. Non l'ha presentato. Vergogna, signor Vespa. Schiaffeggia vergogna, Maroni, dai. Vergogna. Naturalmente ci consulteremo con i nostri alleati, e sono ancora nostri alleati, perché la Lega è posizionata soprattutto al nord, è posizionata soprattutto, no, fanno gli spiritosi, ma solo questo. La pensione, dai, caccia i soldi fuori. Ovviamente alla radio non si può vedere, ma c'è Berlusconi che ha dato un buffettino, uno schiaffettino a Maroni. A Bobo. Perché Ciao poi Bobo. Diciamo la verità. Adesso la Lega fa la voce grossa, ma alla fine tu dici strucca quando torneranno insieme. Bah, sì, ma è chiaro, no? Ma non è evidente. Sta cambiando tutto. Berlusconi è tornato a parlare di esondazione della magistratura che ha inquinato la democrazia. Ci sono due temi sempre presenti, no? L'esondazione della magistratura e la tragedia del comunismo. Anche adesso che non è più presidente del Consiglio, insiste su queste due cose. Sentiamo prima l'esondazione della magistratura. L'esondazione. Che fai? Ho un po' di tosse, non si può. Esondazione. Siamo partiti con la speranza di poter intervenire su quella che è l'emergenza del nostro paese. L'esondazione che la magistratura ha fatto dal suo alveo e che ha inquinato la vita democratica e che inquina la vita democratica del nostro paese. Che voglio spenderla per fare. E poi la tragedia del comunismo. Questa sinistra che noi ci troviamo purtroppo davanti, che ancora è una sinistra che non sa che cosa sono i valori della socialdemocrazia, che tenta disperatamente di occultare la tragedia del comunismo, ma che invece opera come se l'ideologia comunista fosse ancora l'ideologia che ispira sulla base dell'invidia e dell'odio tutte le loro azioni. Presidente, non le pare di esagerare oggi? No. Ancora? No. Ancora? L'ideologia comunista, no? Guardi, ne sono assolutamente comunque. Vespa dice, ma Vespa, non le pare. No, Vespa, ma che timidamente? Timidamente. Normalmente, come si fa? Ma non le pare di esagerare con questa tragedia del comunismo? Ma hanno votato un governo insieme, tra l'altro. Con i comunisti? Col PD, perché lui considera anche il PD erede del PC, con la stessa PDS, mentalità PDS, ancora che non è cambiata, non dicesse, eh sì, a quelli si riferisce, a chi si riferisce? A Diliberto? Vabbè, abbiamo molti ascoltatori e bene, grandissimi ospiti che ci aspettano fra poco qui a Bruxelles. 800 24 00 24. Andrei a Trento dal signor Gerardo, no, anzi no, a Messina da Giacomo. Buonasera, è un piacere. Buonasera Giacomo. Parlare con voi, anche se penso che con questo governo, diciamo, al bromuro, spero che non abbia effetti sul vostro programma, perché insomma ci manca un po' Berlusconi. No, noi ci teniamo sempre. Ma no, noi siamo vivi, siamo qua che combattiamo ogni giorno. Stiamo non si sempre preoccupi, a mille. Quale effetti sul programma? Qui ci si riadatta a qualsiasi situazione. Verrà fra poco, sentirà fra poco che cosa mandate. Succede qui alla Zanzara da Bruxelles. Vedrà, ne parlerà tutto il mondo, amico mio. Sto governicchio, diciamo, dei primi della classe, speriamo, perché vede, io lavoro nella pubblica amministrazione, il problema non sono solo quelli che comandano, ma sono le procedure, i lavori, e praticamente c'è il terrore della magistratura, cioè tutti i dirigenti pubblici oramai lavorano per il giudice, e in questo Berlusconi ha ragione, cioè fondamentalmente non si riesce a fare. Ma non ho capito, che cosa perché succede, che cos'è che lavorano i dirigenti pubblici, non ho capito Giacomo. Cioè tutti hanno il terrore del ricorso al TAR, dell'intervento della procura, per cui vabbè, poi darsi di dare, ci sono troppi ricorsi, eccetera, poi è praticamente bisogna camminare con l'avvocato in tasca, di fatto non si riesce a fare nulla, se non si arriva a incidere su questo, cioè sono tutte chiacchiere, i decreti fatti là, poi chi li applica? Tutta sta gente che lavora nei ministeri, nelle direzioni comunali, provinciali, regionali, Ragazzi, cioè, è una cosa pazzesca, non si riesce a fare nulla. Questo è un problema generale dell'Italia, un problema di ricorsi, il problema dei ricorsi, questo è il problema, cioè ci sono troppi ricorsi, c'è troppa burocrazia, non c'è mai una parola definitiva su nulla perché c'è sempre un appiglio, su questo non c'è dubbio, però da questo punto di vista non è che i governi in teoria liberali hanno scalfito qualcosa, non hanno fatto assolutamente nulla. Grazie, Adriano da Firenze, buonasera. Firenze. Buonasera, senta, io intanto che volevo intervenire, ma non è facile intervenire da voi, anche se ho preso diverse volte. Va bene, però adesso è qui, per cui vada. Meno male, vuol dire che c'è tanta gente che chiama. Benissimo, senta, io volevo invitarvi a fare una battaglia morale verso la politica, perché ci sono diverse cose che fanno pensare che i politici siano peggio della delinquenza, perché fanno certe cose che se i delinquenti lo facessero, a meno rischiano la galera, loro no, loro si fanno le leggi per legalizzarsi dei furti. Parlo dei vitalizi, io non ho mai sentito una ragione che stia in piedi sui quali qual è il diritto che uno può avere del vitalizio, primo. Secondo, i diritti acquisiti, ma qui si parla di diritti acquisiti, i vitalizi vanno tolti non solo per il futuro e per il presente, ma anche per il passato, perché sono dei furti legalizzati che la politica si è fatta. E quando qualcuno dice ma i diritti acquisiti, io le faccio un esempio. Il governo Amato, no? Cosiddetto di sinistra, Amato, che invece di andare ad Amammet è andato a Palazzo Chigi, no? Tra l'altro, io voglio capire, lei si ricorda che c'era una legge per la quale chi pagava la contribuzione volontaria per 15 anni, no, a 55 anni gli davano. Sì, però scusi, Adriano, non lo facciamo adesso, non andiamo nel dettaglio di queste cose. Qual è il punto? Non ho capito, qual è il punto? Che fanno le questioni di principio solo quando interessa ai loro sporchi interessi. Allora, lei dice che si può agire anche sul passato, anche secondo me si può. Si poteva e si può agire anche sul pregresso, cioè non è vero che i diritti acquisiti non si possono toccare, perché quando si vuole in altri campi si interviene pure sul pregresso. Certo, è un po' complicato, si rischiano cause, però insomma, se si voleva dare un taglio definitivo anche alla questione dei vitalizi, si poteva intervenire anche sul passato. Adesso è importante incidere sul futuro, soprattutto subito. Beh, insomma, però pesano anche le pensioni del passato. Sì, non è che, però è importante non fare questa cosa. È dal 94 che si parla. Traffico, torniamo subito. Forza dammi la pensione, dai caccia i soldi fuori gli schermi. Bene, siamo sempre qui in diretta da Bruxelles, dove fra poco ci attendono grandissime sorprese, uno degli uomini più cliccati degli ultimi giorni, un europarlamentare britannico, aspetta, che avete... presentalo bene. Sì, adesso lo presento bene. Intanto Berlusconi che dice: torno presidente del Milan. Su Maroni faccio valere una certa superiorità fisica e anche il fatto della presidenza milanista. Credo più la seconda. Allora, devo dire che da quando non è più al governo il Milan sta ottenendo risultati molto significativi, quindi... Allora. Io ricordo che sono il presidente nella storia del calcio che ha vinto di più. Il secondo dopo di me, Bernabeu, ha vinto la metà dei trofei che ho vinto io. È vero che riprende la presidenza del Milan? È vero che riprende la presidenza del Milan? Certamente sì. Oh, eccola questa qua. È la notizia. Forza dammi la pensione che devo vivere con dignità. Ebbene, signore e signori, qui da Bruxelles in diretta, Nigel Farage, buonasera. Nice to meet you. Thank you, boys. Welcome in Italy. Excellent. Welcome in Italy. Nigel Farage is the leader, one of the leader of United Kingdom. Tell the name. Yeah, I lead the United Kingdom Independence Party. United Kingdom. Oh, what a nice partito English. Per l'indipendenza della what Gambia. We're saying is we what a nice English. Do you think so? It's beautiful English. Well, it's better than my Italian, I promise you. Balzania? Sì. Chi è Balzania? Marco Balzania. Ah, Marco Balzania ci aiuterà in questa traduzione della giornalista del Sole 24 Ore degli Esteri, ci aiuterà in questa traduzione di Nigel Farage, leader del United Kingdom Independence Party. Ciao Marco. Ciao a voi. Eccoci qua. Eccoci, allora, subito un giudizio, caro Farage, lei che è stato uno degli uomini più cliccati su internet. In Italia. Traduci, Marco, intanto, uno degli uomini più cliccati su internet in Italia negli ultimi giorni. Un giudizio su Monti, sul governo Monti. Vai, Marco. Your opinion, your judgment on Mr. Monti, the new Italian premier. Yeah, my opinion is that he is unelected. He's been put there because the Germans said, we don't want Mr. Berlusconi any longer, he's got to go, we want one of our own people to take over in Italy. The guy wasn't even in the parliament in Italy. He now has a cabinet in Italy, not a single one of whom is an elected politician. You have now got a puppet government in your country, and I'm amazed that your members of parliament haven't stood up and screamed. Puppet government, puppet, governo fantoccio, traduzione, Marco. Sì, il giudizio è di quelli trancianti, è Monti e non è eletto, e a un certo punto i tedeschi, la Germania ha deciso che Berlusconi doveva andare e volevano uno come loro, qualcuno che loro potessero sostenere al governo, e non era appunto neppure eletto in Parlamento Monti, e quindi ecco che è arrivato però un governo fantoccio, come ha detto, puppet government. Monti è espressione di un governo fantoccio. Monti è espressione di un governo fantoccio. Puppet. Ecco, lui è stupito del fatto che scrive. Ed è stupito che i parlamentari italiani non abbiano gridato, che non si siano inalberati di fronte a una simile a quello, sì, che si vede, cioè, come una In Inghilterra sarebbe stato possibile un'operazione come quella italiana con Mario Monti? It's possible in English? No, in England. I don't think it is. And we of course have the Queen as our head of state. Ah, the Queen. Great. God save the Queen. She is wonderful, and there's no question about that. Yeah. And she wouldn't allow, because of her constitutional position, sì, she would not allow for an unelected puppet non avrebbe permesso un governo non eletto. But my question is, you've got Mr. Napolitano. Yes, Giorgio Napolitano. Right. We have Napolitano. We have. Now he save. God save Napolitano. I think something else should happen to him, because he, as your president, yeah, should be defending the Italian Constitution. What's he doing? So he should be fired, shouldn't he? He's failed. He's failed Italy miserably. Qual è il giudizio su Napolitano, Marco? Sì, anche qua un giudizio davvero pesante. Lui dice non è come la nostra regina. Lui dice la regina, che è una persona fantastica, dice non avrebbe mai permesso una cosa simile. E invece la domanda è perché l'ha fatto Napolitano. Ha detto dovrebbe non avrebbe mai essere dovuto licenziato, farlo. Se non ho capito licenziato, bene. Fired di fronte a una simile gesto. Allora, ma Berlusconi poi alla fine, Mr. Berlusconi accepted, dico bene Marco, ha accettato il governo Monti. Accept. Why? Perché ha accettato il governo Monti? Why? I think Mr. Berlusconi was at the end of, he was tired, a long premiership, and perhaps he'd lost the will to fight. But whether Mr. Berlusconi fought or not, what about the rest of the MPs in Rome, in your parliament? Where are they? What are they doing? What are they saying? I mean, are you to become a German colony and no one's prepared to say anything? Se non ho capito male, perché nessun parlamentare si ribella a questa situazione? Il fatto che noi siamo diventati una colonia tedesca, giusto Marco? Sì, giustissimo. Dice forse Berlusconi ha perso la voglia di lottare, non lo sa, ma insomma, ma il vero problema secondo lui è che cosa hanno fatto gli altri parlamentari, tutti i parlamentari italiani, si rendono conto o meno che il rischio è quello di diventare, lui dice, una colonia tedesca. Ecco, però Monti è stato presidente della Commissione Europea, una persona molto stimata. A very good president of Commission in Europe, Monti. Oh, commissario europeo. No, Monti was brilliant. Brilliant. He was so brilliant that he was one of the architects of the euro, which is now leading to millions of people losing their jobs and economic ruin. Brilliant. Cioè, traduci povero, cioè, talmente brillante, talmente, come dire, talmente stimato che è stato uno dei creatori dell'euro che ha portato poi a questa situazione, giusto? Sì, si può notare una nota di sarcasmo, insomma, appunto Monti brillante, molto brillante, così brillante che è uno degli architetti dell'euro, che l'euro che ci sta portando alla rovina e sta portando alla perdita di milioni di posti di lavoro. Bene, grazie, ci sentiamo tra 10 minuti dopo il giornale radio con Nigel Farage, che resterà con noi. You stay with us? 800 24 sure. 0024, la zanzara, oh, Nigel Farage, great, in esclusiva. Ai ai ai ai ai ai ai, hey, hey, hey. qui, siamo qui, 800 24 00 24, la zanzara, il signor Nigel Farage. Beh, è andato in giro per il Parlamento europeo a parlare male dell'euro. Ormai e dello stesso Parlamento europeo. Fra poco tornerà nel corso della trasmissione, farà un blitz per raccontarci altre cose, per raccontarci altre cattiverie su Monti e su Napolitano. Ma non abbiamo raccontato cosa abbiamo trovato nell'ufficio del signor Figer, Nigel Figer. C'è una Farage, bara, si dice Nigel Farage. Non mi correggio sull'inglese. Figer, Nigel Figer. No, cioè, Farage. Che noia. Vabbè, insomma, c'è una bara nel suo ufficio, lo pubblicheremo sul Facebook della Zanzara. Abbiamo fotografato un'enorme bara col simbolo dell'euro nell'ufficio del signore, come si chiama? Farage. Titoli del TG3. Buonasera a tutti. E adesso i titoli del TG3 di Bersani. Monti accelera, lunedì la manovra, subito riforme strutturali e pensioni per ridurre il disavanzo, se falliremo conseguenze gravi per tutti. Sindacati contro interventi sulla previdenza, la Camusso i 40 anni per l'anzianità, numero intoccabile, ospite al TG3 il segretario CISL Bonanni. Bersani sulla patrimoniale, il PDL non condiziona il governo. Schifani, le misure anticrisi saranno approvate entro Natale. Dalle banche centrali denaro a tassi più bassi, per le banche volano le borse, Milano oltre il 4%, spread a 4,75, RIN 10 giorni per salvare l'euro. Traffico, rifiuti e tangenti, in carcere imprenditori e il vicepresidente del Consiglio regionale della Lombardia, in casa una mazzetta da 100.000 euro. 'Ndrangheta blitz tra Milano e la Calabria, arrestato il magistrato Giglio del consigliere regionale calabrese, il PDL Morelli. La morte di Lucio Magri riapre il dibattito sul suicidio assistito. L'amico Valentino parlato al TG3 è stato un gesto politico. Tu, tu pure sai che non va la vita come ragazzo mio. Ci sono colpi di collesto, fanti di là, mille topi, tutti per te. Le zanzare che pungono me sono le stesse che poi pungeranno te. E tutto questo perché con tanti galli che cantano non si fa mai giorno. Che in inglese chi co co co co co co co co co qua qua. Tanti galli che cantano. Oh yes, chi rispondono. Co e fai che cantano così. Le papere piangono. E qua qua qua qua qua qua. Everybody. Bene, bene. 800 24 00 24. Questa è la Zanzara. Ieri sera a 8:30 Carlo De Benedetti, L'ingegnere di Repubblica, il quale dice di provare grande sollievo per le dimissioni di Berlusconi. Beh, questo sarà san dire. Mi pare abbastanza ascoltato. Sentiamo. Che impressione, che effetto le hanno fatto le dimissioni di Berlusconi e secondo lei è politicamente finito? Ma guardi, io non sono in grado di rispondere a questa domanda, alla seconda parte della sua domanda. Alla prima un grande sollievo, ecco, cioè veramente il paese ha finito di andare dietro al piffero di Hamelin, ecco, cioè... Il piffero di Hamelin. Beh, è ingegnere, è coltissimo. Radical chic. Vabbè, non è nuova questa cosa del piffero. No, però come la dice lui. Comunque poi abbastanza chiaramente dice che insomma la 7 gli piacerebbe ma che non gliela vendono. Ah, qualcosa anche. Sei interessato a questa cosa? Sei interessato, eh? Mi piacerebbe la 7. Sentiamo. No, guardi, noi non abbiamo nessuna intenzione di televisione per una ragione semplice, che una televisione molto bella è la 7. Ma mi sembra di sapere che il dottor Franco Bernabè, mio caro amico, non ha nessuna intenzione di venderla. Per cui, sa, Quindi le piacerebbe la 7? Mi piacerebbe assolutamente la 7. Vabbè, noi lo prendiamo come un grande complimento e lo prenderà così questo... anche il dottor Bernabè. Il gatto e la volpe. Ho votato e voterò Partito Democratico. Non userei la parola fallito. Io ho votato PD alle ultime elezioni e se ci saranno delle elezioni prossime venture è molto verosimile che continuerò a votare PD, perché considero che il PD sia la forza riformatrice più importante che c'è in Italia. Sai che mi viene l'ingegner De Benedetti, che mi piace moltissimo. Poi, per non farci attaccare da nessuno, sì, guarda, faccio un atto di grandissima trasparenza. Sì. Lui ha parlato di imprenditori, che prima stavano con Berlusconi, che hanno fatto affari con Berlusconi e che poi lo hanno attaccato. E di chi, no, parla? Parla anche della Marcegaglia. Ah. In questo modo, sentiamo. La Marcegaglia ha affittato a un prezzo che mi pare stato giudicato da tutti risibile, le attrezzature, dei soldi buttati via per il vertice della Maddalena che poi non si è tenuto, e certamente questa è stata una decisione presa dal governo Berlusconi. Va bene, va bene. Zanzara! Giorgio da Milano, buonasera. Giorgio Straguadagno? No, Giorgio, un ascoltatore da Milano. Un ascoltatore da Milano, sono Giorgio. No, intanto è bello sentire De Benedetti, sì, che si propone anche per una patrimoniale, eccetera. Adesso che, se non sbaglio, pronto cassa, si è trovato 750 milioni, più o meno così, più o meno inaspettati. In un certo senso probabilmente... Beh, inaspettati, frutto di una sentenza. Sì, per l'amor del cielo. Frutto della sentenza, giusto o sbagliata che sia, ma è una sentenza. Che devi fare? Non discuto di quello. Non è che uno è a favore o contro di una patrimoniale a seconda del fatto che abbia avuto una sentenza favorevole. Non c'entra assolutamente nulla. Ma infatti io non ho parlato di sentenza, ho detto si è trovato di punti in bianco 750 milioni e quindi per la patrimoniale in questo caso probabilmente si scarica anche un po' a dire vabbè, diamo pure una mano al paese. Vabbè, poi... No, sinceramente l'intervento era basato su altro. Ho notato, e chiedo anche a voi se è così, vabbè, a parte che è così, da quando è subentrato questo governo sembra che si faccia di tutto, di inserire ovviamente la classica distrazione di massa parlando delle Ius Soros per gli immigrati in modo da stuzzicare la Lega, mettere il nord contro Ius il sud, soli. Ma chi è che lo fa, scuso? Scusi, chi lo fa? Chi lo farebbe? Un po' tutti. Chi è che attetterebbe questo piano di distrazione? Un po' tutti, dico, della televisione quando segui i programmi alla mattina, anche sui giornali, mentre invece l'obiettivo, quello... Guardi, qual è il problema? Il problema è che non si sa nulla ancora. Adesso Monti oggi dice che bisogna fare in fretta, che i provvedimenti saranno presi a giorni, eccetera. Però fino adesso abbiamo degli accenni, la sostanza ancora non c'è. Cosa c'è in ballo? C'è questa trasparenza che è vero che volete eliminare gli sprechi, poi i benefit eccetera, e prendete oltre che l'indennità da ministro, da sottosegretario, anche da parlamentare, che parlamentari non siete? Cioè cominciano sempre dalla legislazione dopo, capite che il biglietto da visita è siamo come tutti quanti gli altri, prima noi, poi se avanza qualcosa per gli amici e il resto popolino paga. Ma a lei chi si riferisce? Scusi, non capisco a chi si riferisce, a questo governo? Esattamente, sì. Si sono presentati con niente più benefici, tagli degli sprechi eccetera, e loro stanno beneficiando e godendo di tutti i surplus delle quali non avrebbero neanche diritto, e qualsiasi provvedimento fanno partirà dalla volta prossima in poi, ed effettivamente cose... dovevano essere più rivoluzionari da questo punto di vista. Vabbè, ma io sono d'accordo con lei in questo senso, che almeno queste cose fai finta di dirle, che così accontenti la gente e tieni buono senza che si sappia magari il grosso. Però uno dice, beh, sono in gamba, già si tolgono quello che non gli spetta, perché l'indennizzo da parlamentare, visto che non lo sono, non dovrebbero percepirlo. Ma infatti non lo prendono. Ma infatti non lo prendono, hanno lo stipendio da ministri e da Presidente del Consiglio. Punto. Che prendono anche quello. Comunque quello che... Ma non è che possibile, ha sentito una stupidaggine. Ha sentito cosa? Come fanno a prendere l'indennità da parlamentare quando non sono parlamentari? Scusi. C'è un limite della sciocchezza. Mussolini, non so poi se è attendibile. Ma quando mai? Mussolini ha detto un'altra cosa, parlava del vitalizio. E il problema è un altro, se vogliamo stare su questo punto. Il problema è che bisogna avere dell'acqua. Questo punto è che il punto è che questo governo costa più a livello di stipendi del governo precedente. Perché non ci sono parlamentari e dunque bisogna pagarlo per intero questo governo, mentre se uno è sia parlamentare che ministro ovviamente prende la metà come ministro, ha capito? Perzio da Pavia, grazie, buonasera. Perzio da Pavia. Buonasera Perzio. Com'è il suo nome, scusi? Perzio? Perzio o Properzio? Perzio. Nome che aveva mio nonno e gliel'hanno dato perché c'era un poeta latino che si chiamava così. Certo, questo niente. È interessante. Ascolti, la chiamo per una cosa che non soltanto lei, ma sento dire da un po' di tempo, cioè il fatto che il governo Monti, siccome è costituito da ministri non eletti, quindi non parlamentari, e non sarebbe legittimo dal punto di vista costituzionale. Niente. Scusi, il fatto che non siano parlamentari non c'entra assolutamente nulla. Non c'entra niente. Però quello uno che può anche fare un governo, può anche fare un governo senza parlamentari, anzi, cioè, in alcuni casi è auspicabile. Cioè, è completamente diversa la cosa. Cioè, la critica che anche il signor Farage, prima qui alla Zanzara, non solo lui fa, è che sia un governo che non è stato eletto, insomma, che non si è presentato alle elezioni il signor Monti come presidente del Consiglio eletto, ma è subentrato in una situazione. È frutto di una manovra politica parlamentare. Si presenta alle elezioni. Perzio, allora? No, allora, lei sta dicendo che questo governo, non soltanto lei, è una cosa che si sente, secondo me è una cattiva informazione. Il fatto di dire che se il governo non è composto da persone che si sono presentate alle elezioni, cioè intendiamoci, da qualche anno a questa parte è invalsa la pratica di mettere non soltanto Berlusconi, lo fece in passato anche il centrosinistra, cioè di mettere nel simbolo del partito il nome del candidato premier, il cosiddetto candidato premier. Noi in Italia non abbiamo il premier. Vabbè, allora il fatto che sia indicato il nome di chi vorrebbero mettere come primo ministro, come presidente del Consiglio nel caso in cui vincessero le elezioni, non sta a significare che noi abbiamo votato per il governo. Ora, il mio giudizio sul governo Monti, che cosa sta a significare? Scusi, che cosa sta a significare? Non ho capito. Si vota per il governo. Sì, ma noi si vota anche per il governo, mi pare evidente. Si vota per una maggioranza, no? Si vota per una maggioranza, c'è una legge maggioritaria, la maggioranza esprime un candidato premier che è quello indicato dalle forze che si presentano. Sono delle coalizioni, no? Di chi parliamo? Non da piangere. Perzio, non ho capito che cosa vuole dire. Allora, se me la fa dire la cosa, la dico. Il discorso è molto semplice. Allora, noi, e ovviamente se io mi presento alle elezioni, dico, nel caso vincessi le elezioni, vorrei, metterò Cruciani come presidente del Consiglio, Parenzo come ministro degli interni e io come non so. Vabbè, allora, governo. Io formo, ho capito, ottimo governo non credo, almeno per quanto riguarda il fatto che mi sono messo anch'io dentro. Però il discorso è che la Costituzione su questo punto è chiara. Lì sono le regole, non sono i principi che sono interpretabili. Perzio, però non ci faccia annoiare, io mi sto annoiare, ma allora perché continuiamo a dire, addormentiamoci, continuiamo a dire che questo governo non ha legittimità, ma ce l'ha. Ma io non ho detto questo, è legittimo, è formalmente legittimo perché è stato è stato votato da un Parlamento. Ma è legittimo, dopodiché poi i governi nascono e muoiono in Parlamento, amico mio, queste sono le regole. Dopodiché è evidente che non c'è il voto popolare, che cosa altrettanto importante, secondo me. There mi piace l'espressione puppet government, governo fantoccio, usato dal nostro amico Farage, Nigel Farage, che tornerà alla Zanzara tra poco, forse a tra poco. Bene, siamo qui 800 24 00 24, con la Zanzara in diretta dal Parlamento Europeo da Bruxelles, dopo l'exploit di Nigel Farage, così si pronuncia, Nigel Farage. Beh, certo. Nostro ospite, insegnami grande inglese, scoop, cioè, della Zanzara, il parlamentare europeo del partito indipendentista inglese più cliccato in Italia negli ultimi giorni. Era qui ospite, cioè non c'è mai stato un parlamentare europeo così conosciuto in Italia come questo inglese che spara zero contro Monti, Napolitano. Ha detto delle cose durissime. Dice anche che i parlamentari italiani e europei, tutti i parlamentari, il popolo italiano dovrebbe ribellarsi al fatto che siamo diventati una colonia tedesca. Così ha detto. Colonia tedesca. E poi ha aggiunto, se vi piace così. Sì, però l'ha detto in inglese, noi non possiamo, diciamo, ripetere. E vi piace così. Va bene, abbiamo un ospite che fra poco vi presento, però prima, molto importante, prima però, il signor Di Pietro, nella giornata di oggi, ha fatto finta di chiamare, sapete che c'è la polemica su Italia, alle ferrovie, alle linee ferroviarie del sud, decisa da Trenitalia, vabbè, tutte cose che non ci interessano. Ma, insomma, Di Pietro ha fatto finta, no, a me non interessa. Immaginavo. È giusto che un'azienda, se ci sono delle cose che non funzionano, tagli, è normale. Cioè, così. Per me è normalissimo, te no, va bene. Di Pietro, con un tratto di penna, ha fatto finta di chiamare il signor Moretti, cioè, sentite, perché è uno sketch eccezionale, perché quando ci si mette Di Pietro un po' ci limita. Copia, copia la Zanzara. Senti. Questo è plagio. Ingegnere Moretti, buongiorno, come va? Oggi che sta a fare il sindaco, sta facendo il presidente della provincia, di ferrovie qua? Dell'uno e dell'altro. Io sono qui, sono venuto dove stanno i lavoratori sulla Prenestina. Che facciamo? Li riceviamo? Non li riceviamo? Che facciamo? E perché non li puoi ricevere? Come non sai cosa dirgli? Ti prego. Li devi ricevere per spiegargli, non che li puoi dire, ti prego. Il sistema ferroviario non è fatto perché usa e getta, scusami, perché allora sono io, se io fossi ministro in queste condizioni, di un amministratore delegato delle ferrovie che si comporta così, lo butterei a calcio nel culo, così per franchezza. Vabbè, la polemica era anche su altro, però pare, dicono che la telefonata fosse vera, cioè che stava veramente al telefono con Moretti, vabbè. Sempre De Benedetti, però voglio chiudere con De Benedetti, l'ingegnere, però non il l'ex senatore, ospite ieri sera di Lilli Gru, perché è stata anche europarlamentare. Sì. E su, ancora su questa questione dei comunisti, di Berlusconi. Berlusconi è tornato a parlare di comunisti. Ma me è curiosito straba della televisione, cosa? Che voleva comprarsi la 7, perché ma no, quando non io è nuova te... questa ma cosa. No, quando io dico vado a comprarmi la televisione, mi compro un televisore magari al plasma. Vabbè, quello si compra proprio la televisione, cioè si compra. Questa ti è riuscita poco, questa battuta. No, ma è una battuta, cioè, non è proprio è la verità. Eccezionale. Tu, perché tu quando dici vado a comprarmi la televisione, vabbè, io, cosa fai? Quello è un imprenditore. Ma lui, fallo risentire, dice volevo comprarmi la televisione, cioè che cazzo, un 32 pollici, no? Ma dicevo la televisione, Bernabé non me la vende. Facciamo risentire questa, su, mi piacerebbe la 7. Perché la diversità tra me e l'ingegnere. Va bene, questo mi pare evidente, però no, c'è bisogno di sottolineare. Mi compro la televisione. Facciamo risentire, Milano. No, guardi, noi non abbiamo nessuna intenzione di televisione per una ragione semplice, che una televisione molto bella è la 7, ma mi sembra di sapere che il dottor Franco Bernabé, mio caro amico, non ha nessuna intenzione di venderla. Quindi le piacerebbe la 7? Mi piacerebbe, insomma, assolutamente la 7. Vabbè, noi lo prendiamo come un grande complimento e lo prenderà così questo... anche il dottor Bernabé. Bene, bene. È con noi David Sassoli, buonasera. Buonasera, buonasera. Partito Democratico, anzi, grande capo qui del Partito Democratico. Il capo delegazione del Partito Democratico all'Europarlamento. Questa volta hai imparato bene la lezione. Beh, veniamo qui ogni mese, cazzo. No, però ogni volta vi sfugge sempre qualche dettaglio. Questa volta no. Senta, lei conosce il signor Farage? Hai imparato Nigel a conoscere Nigel Farage? Beh, ormai tutti gli italiani lo conoscono, però sì, l'ho sentito in aula quando era anche lei in aula, sì. Moderato, si può dire. Moderatissimo, sì. Poi vuole bene all'Europa. Molto. Vuole all'euro bene... soprattutto. Sa all'euro, che cosa? Sa sì. Che cosa ne... Non è mai entrato nel suo ufficio? No. Beh, dovrebbe fare. Una, questa è un'esperienza che mi manca. Noi l'abbiamo fatto. Noi l'abbiamo fatto. E ha una bara. Ah, ha una bara a dimensioni reali, a dimensioni vere, e sopra c'è una scritto bara vera. Euro, sì, esatto. C'è l'euro sopra, poi altre cose di una volgarità incredibile. C'è una cosa contro Van Rompuy, c'è anche un fantoccio impiccato che è il presidente della commissione. Ma no? Lei si sente, quindi più che un ufficio è un loculo. Questo è buono, l'effetto è un po' quello, sì. Ma lui non sa però a che cosa va incontro. Adesso arriva tra un po', A che cosa va incontro? Va incontro che se l'euro continua ad andare male, la sterlina va male pure, ma tracollerà, cioè un e allora lui non ha capito che il problema che dovrebbe fare il tifo per l'euro, dovrebbe fare il tifo per l'euro, così come tutti i britannici con un po' di sale in zucca. Beh, questa è un'ottima obiezione, gliela faremo più tardi quando torna. Senta, Sassoli, ma lei quando era vice direttore del TG1 aveva una carta di credito aziendale? No, non ho mai avuto. Come no? Come no? Come è possibile? Ma Sassoli, ma com'è possibile? No. Perché invece c'è qualcuno che ha usato una carta di credito? Ha usato una carta di credito. È arcinoto, però. Sì. Insomma, no, lei quanto tempo è stato insieme al signor Minzolini? Mai? No, mai, mai. Ah, mai? Io sono andato via... prima che lui arrivasse alla fine della direzione di Gianni Riotta. Mai, nemmeno qualche giorno. No, nemmeno qualche giorno. Perché lui è arrivato, credo, a maggio-giugno. Io sono andato via per le elezioni europee. Che già vero, 2009. Ed era aprile. Aprile. Ma adesso può dire meno male? Si può dire meno male? No, meno male. Io sono molto dispiaciuto perché abbiamo lasciato un telegiornale al 33%. Adesso... Sta andando in cifra unica, no? Sta andando in cifra unica. Beh, adesso esageriamo. No, vabbè, ma poi i dati sono un po' controversi in realtà, perché è vero che è calato in assoluto, però sulla famosa disfida con il TG5, eccetera, ci sono, la cosa va a giorni alterni, diciamo. Ma a lei piace il TG1? Assolutamente no. A lei? No, siccome credo che questa sua osservazione sia la stessa che hanno fatto milioni di italiani che tutte le sere hanno deciso di non guardarlo, qualche problema quel telegiornale e il suo prodotto, però diciamo, è vero che hanno provocato. Non c'è dubbio, però è vero che in assoluto è cambiato un po' l'ascolto, no? Dei sì, sarà anche cambiato. Cioè, è solo colpa di Minzolini, secondo lei, o di questa rivoluzione digitale? Secondo me è colpa di chi ha pensato che il telegiornale fosse un pezzo della sua propaganda, e non volendo bene al servizio pubblico, perché non gli è utile, non gli serve a nulla, non gli ha dato gli strumenti e le risorse per stare sul mercato. Cioè colpa dell'azionista di Berlusconi, cioè, direi che, della politica. Che la grande responsabilità è del passato governo. Del passato governo, perché sì. È evidente che lì Berlusconi ha detto a Minzolini: vai lì per conto mio. Beh, questo credo che lo dica anche Minzolini. Sì, no, anche a noi ha detto: vado via quando va via Berlusconi. Però quindi, in realtà ancora non sei andato. Adoras, sincero, adoras. Almeno sì, in questo è sincero. Non converrebbe forse fare una telefonata? Non dobbiamo fare una telefonata a chi? Al signor Minzolini? Forse converrebbe, no? Così gli passiamo il vice direttore. Vabbè, possiamo, proviamo, sì. Se riusciamo, no? Chiamiamo in diretta. Sta per andare in onda al TG1, magari non ci risponde. Ma manco lo guarda. Ma tu dici, manco ma lo fa. Lui il primo. Ma secondo lei lo fa o non lo fa il TG1? C'è un editoriale. Cioè, editorialismo. Ah, no, quello va mandato subito, tutto. Ma secondo lei lo fa il TG1 o no? No, Minzolini, no, cioè lo so, e soprattutto lo guarda il TG1 secondo lei. Cioè lei fosse in Minzolini guarderebbe il no dai viaggi giornale. Che ha fatto sembrerebbe che non è che sta molto al no. TG1 così. Beh, noi eravamo i primi a entrare e gli ultimi a uscire. Ecco, il suo orario di lavoro quando era la Rai qual era? No, che interessante anche questo. Sassoli quando tra era tra i la primi Rai. Ad entrare quindi alle 9 del mattino e gli ultimi ad uscire e usciva alle 10. Sì, alle 10, ma anche più tardi. Ma insomma, senza entrare nel merito, però, uno che è accusato, una persona che è accusata di truffa, credo, no? Di truffa, sì, non di peculato, ma di truffa, insomma, senza entrare nel dettaglio, è accusato di quelle cose, di avere speso dei soldi che non doveva spendere. Secondo lei cosa dovrebbe fare? Al di là poi della questione giudiziaria che verrà. Ma quello che sta facendo lo sta facendo. Pronto? Sì. Aspetta, quello che sta facendo lo sta facendo la registratura. Il cellulare del. Di Augusto? Pronto? Sì, giusto, grande stai? Minzolini! Ah, cioè, come stai? Io lavoro, io so che voi diciamo sì, divertite, sta lì battutina. No, ti faccio. No, ti, io, ti vogliamo, ti vogliamo far sa. Io allora, lo so, lo so. Amico mio. Ho il telegiornale, sto guardando il hai video. Ragione, ma sì, ma allora, tanto cambiate, ci abbiamo. Io sono ascoltami. Cioè, cambiate l'orario. Aspetta, lasciamo, io no, vi do tutto il tempo che volete. Qui sta lì, prendi, mi dico fuori una frase. Probabilmente è no, una cosa che tu prendi che dice, frase. Le agenzie. Ma scusa un attimo, no, io no, faccio da 30 no, anni no, questo no. Mestiere, lo faccio come te, sono un corsaro, immagina che faccio fregare da te e dai, siamo seri. No, no, c'è, no, c'è il vice direttore, no, c'è Sassoli, no, c'è solo Sassoli. Sono saluti Sassoli che è qui. Se Sassoli lo sa benissimo, adesso sta per andare in onda e sto ho davanti i titoli da guardare. Un bacino. Hai ragione, hai ragione. Un abbraccio hai ragione. Forte. Ciao. Salutalo Sassoli. Hai ragione. Io ti avevo detto che non era il caso di chiamare. Eh? Ogni volta mi fai queste cose qua, ma ti avevo detto che non era sì, il caso di chiamare. Scorretto. Prima del TG1 non è il caso. Sì. C'è come quelli che fanno squillare il telefonino quando i conduttori sono in onda, no? Sì, no, ma hai ragione. Però oddio, noi usiamo questa tecnica ogni tanto perché, diciamo la verità, ormai... Ormai lo sapete stai che a vedere è che uno colpa scherzetto. Mia. Sei incazzato con me del colpa questo mia. È uno no, scherzetto che funziona anche nell'aula di Strasburgo. Cioè che quando qualcuno interviene, c'è cioè, ci sono alcuni che gli fanno squillare il telefonino. Ah, sì. Bellissimo. Ah, questo, sì, ma ormai è un gioco questo. Cioè, dice, siamo vecchi ormai, sì. Anche questa qua è roba vecchia. Sì. Meglio questo che dare i pizzicotti sì. Alle colleghe del sedere, no? So anche chi è quello che... che fa squillare il telefonino. Che fa squillare il telefonino. Cioè, siccome non hanno niente da fare, in realtà, c'è no, poco da fare. Perché? Beh, qualcuno, un suo collega... Un po' di esempio, goleardia. Un suo collega, il signor Domenici, che è stato sindaco di Firenze, in una recente intervista con la sera ha detto che qui voi vi sentite persi, almeno lui si sente perso, non tutti no. Si sente un po' perso in Italia, non mi ascoltano, si annoia forse. Lei si trova nella stessa beh, questa situazione. È una domanda da fare a Leonardo che no, tra l'altro sta lavorando tantissimo. No, lui dice lavora tantissimo, però in Italia è quello che facciamo è un po' dimenticato, è vero o no? Beh, che ci sia un po' di distrazione sulle questioni europee in Italia, questo mi pare ovvio, basta che leggete i giornali la mattina per rendervi conto di quanto scarto fra le cronache dei giornali europei e quelli italiani c'è sulle vicende, per esempio, certo. Del Parlamento europeo. Ma non c'è solo questo, credo che intendesse un'altra cosa, cioè il nostro lavoro in Italia, dai dirigenti politici in Italia, non è ascoltato, cioè non siamo considerati. Questo credo che valga caso per caso, adesso sinceramente. Senta, ma secondo lei il governo tecnico dovrebbe cambiare, ad esempio, i vertici della RAI? Io credo che sul servizio pubblico occorra un intervento molto serio. Quindi dovrebbe intervenire anche su questo? Sì, ma innanzitutto bisognerebbe ripristinare la logica di un servizio pubblico che contenga il pluralismo necessario e soprattutto un'informazione libera. Quindi dovrebbe ripristinare un minimo di regole. È importante il servizio pubblico. E il governo perché tecnico... se è buono fa essere migliore anche... Il paese? No, ma anche il sistema privato. E invece quando il sistema pubblico è cattivo, in realtà non è un aiuto anche agli altri. Quindi cioè, il ministro del Tesoro, che è quello che detiene il potere sulla RAI, dovrebbe intervenire. Beh, insomma, qui, cioè, il Presidente del Consiglio. Insomma, ci sono organi nominati direttamente dal governo, cosa unica in Europa. E quindi? E questa legge andrebbe rivista immediatamente, una legge in fondo che fa scambiare l'informazione come un pezzo della propaganda dei partiti, cioè, insomma, o del governo. Si può andare a elezioni nel 2013 o quando sarà con questa RAI così organizzata, secondo lei? Io penso che non sia utile al paese. Quindi andrebbe cambiata profondamente. Senta, tornando sulla questione di Minzolini, le accuse di questo tipo, provate o no, dovrebbero imporre le dimissioni? Ma io penso che ormai questa vicenda, quello che sappiamo è che è avviata diciamo in un fronte giudiziario. Sì, adesso a dicembre c'è stata una richiesta di rinvio a giudizio, si deciderà sul rinvio a giudizio. In altre epoche vicende di questo genere erano prese in mano dall'azienda e le risolveva, diciamo, magari anche tutelando la persona che aveva a che fare con la magistratura. Cioè, in questo modo? Caso invece non è avvenuto. Cioè non dicendo fai un passo indietro. Esatto, fai un passo indietro. Dietro, occupati di altro. La RAI tra l'altro è un'azienda tan grande, che dove ci sono tanti ruoli che uno può svolgere. Però oggettivamente può restare Minzolini a lavorare per la RAI dopo quello che è successo? Secondo me non lui potrebbe, formalmente non, potrebbe. Secondo me non doveva nemmeno entrarci. Addirittura perché? Perché le premesse del suo ingresso in RAI erano quelle che abbiamo detto prima. Beh, però insomma si presentava come un cronista, effettivamente negli ultimi tempi seguiva sempre il Presidente del Consiglio. Ma non è un uomo del servizio pubblico, ci sono tanti giornalisti bravissimi, anche esterni, alcuni molto polemici, altri molto faziosi, ma comunque intelligenti, e non sono personale giornalistico per aziende di servizio pubblico. Cioè lei dice che Minzolini è proprio uomo berlusconiano. Ma lo dice lui, insomma, sì. Non c'è bisogno, non si scopre niente. Ma in realtà è come scoprire l'acqua calda. Quando è diventato direttore del TG1, Minzolini non si presentava in questo modo, era stato presentato come un cronista d'assalto che ha fatto anche la storia del giornalismo politico. Sì, adesso italiano. Lei mi chiede tratti biografici di Minzolini, no, che io magari non conosco. No, per dire, all'inizio lui si è presentato, è stato presentato in questo modo come un grande cronista, eccetera. Invece per lei era già tutto chiaro, mi pare di capire. Ma sì, qui c'è un vizio. Lo dicono sempre tutti, no? La politica faccia un passo indietro dalla RAI. Beh, anche il centro-sinistra lo sì, fece, tutti lo dicono, sto dicendo, cioè. Lo stanno dicendo tutti da troppo tempo. In realtà c'è una legge che non fa fare nessun passo indietro, anzi fa fare molti passi avanti alla politica nell'occupazione di questa azienda. Io credo che il problema vero sia la legge. Cambiare le regole. Assolutamente. E questo lo può fare un governo tecnico e questa maggioranza bipartisan? No, questo lo dovrebbe fare chiunque abbia cuore, a chiunque abbia a cuore un'azienda di servizio pubblico e anche il paese, perché poi stiamo. Però secondo me l'unica via è privatizzare col telefonino dei conduttori. Fatto squillare. Ecco, questa è un'osservazione che è conseguenziale a chi non vuole bene al servizio pubblico. No, non dico... Allora, siccome lo sfasci, allora naturalmente non può reggersi e bisogna privatizzarlo. Però il servizio pubblico invece può andare anche bene, può essere anche un valore per il mercato. Finmeccanica è un'azienda pubblica che è stata divorata dai partiti, purtroppo sì, in Italia, ma infatti il problema di Finmeccanica è che è stata divorata dai partiti, ma bisogna salvarla perché è un pezzo industriale del paese molto ma molto prezioso. Io ho dei dubbi che una cosa pubblica in Italia amministrata dai partiti, ho il timore che una cosa pubblica in Italia dove ci sono i partiti no, ma infatti non bisogna, infatti no, sto dicendo esattamente quello che dice lei, non bisogna farla amministrare dai partiti. Lo so, ma è difficile quando è pubblica non farà amministrare. Guarda partiti, un po' chi è tornato. Guarda un po' chi è tornato, cari radioascoltatori, allora, della Zanzara. Per, ancora per 5 minuti Nigel Farage in esclusiva di nuovo. Intanto il signor Alberto da Milano, buonasera. Eccolo. Alberto, buonasera. Welcome in Radio Italian. Dica c'è il signor Farage. Riguardo al signor Farrell, signor Nigel. No, Farrell. Farage, come what's your name Farage. Exactly? Farage. Yeah. Okay. God save the Queen, eh? Absolutely. E God save Napolitano. Sac Napolitano. Come sac Napolitano? No, come sac Napolitano? Come fai Napolitano? No. Get rid of him. Napolitano da licenziare. Vuole licenziare Napolitano? Licenziare Napolitano. Napolitano. Giorgio Napolitano. Giorgio Napolitano. He's our president. That's not bad, is it? He's our president. Well, he's a bad president. No. Perché? Un cattivo presidente. He's perché allowed your elected government to be replaced by a bunch of German-sponsored bureaucrats. He's got to go. It's vilipendio. Ha permesso che il governo traduca anche un po' lei che si intende. Questo è vilipendio al capo dello Stato. Vilipendio al capo dello Stato. Balsania. Vilipendio all'euro. Vilipendio. Come se, Balsania, come si dice vilipendio al capo dello Stato? Vilipendio. In inglese, no? Noi non si... è tosta, Questo mi coglie leggermente impreparato. Comunque, no, come si dice in America quando c'è l'offesa al capo dello Stato? Com'è? Sì, un offense to the head of state. You offended a head of state, Farage. Well, if the head of state breaks his or her promise and doesn't uphold the Constitution, which clearly has happened in Italy, I think one's got a right to be rude about them. Ma capito, Balsania? Io non ho capito niente. Dice che se un presidente comunque viola o tradisce diciamo il suo mandato, sì, la Costituzione, i valori, a questo punto non è più un'offesa a dire quello che è, quella che lui viene essere. Ho capito. Allora, signor Farage, io voglio fare una domanda. Your English is perfect. Thank you very much. Great. Very great. It's the first time on Italian radio my English has been praised. Thank you very much. Incredible. Incredible. È incredibile. Senta, sta mangiando minestra in testa. Senta una cosa, voglio chiedere una cosa. Berlusconi, the private life, la vita privata di Berlusconi, giusto? Valsania, tu correggimi quando io faccio degli sfondoni, cioè quasi sempre. What's the thing about? Do you know Ruby Aruba Quarry? Ruby come si dice Aruba? No, I've never been invited to any of Mr. Berlusconi's parties. Vabbè, non è stato and I have to say I'm rather upset about it because it would be nice to have been asked. Look, come on, if we're honest about it, most red-blooded males will look at Berlusconi with a degree of jealousy. I think that's true. È geloso di non essere mai stato invitato da Berlusconi. Com'è la storia? È così. Sì, avrebbe ricevuto un piacere, cioè un invito, perché lui dice, insomma, lo ammette, tutti maschi focosi, dice, insomma, in qualche modo non possono che provare invidia, sostiene, in qualche modo di Berlusconi. Beh. Però, Mr. Farage, nella stessa situazione in Gran Bretagna, dopo due minuti era già stato cacciato. La signora Thatcher, La signora Thatcher mai avrebbe fatto un bunga bunga. Scusami, Marco, party. Traducimi questa cosa qua. No, Mrs. Thatcher, bunga bunga, I don't think so. In England, someone discovered behavior as Mr. Berlusconi was, would have been like chased away in 2 minutes. And Miss, you know, Miss Margaret Thatcher would have never, you know, entered anything like this. So how do you know? No, you're right. I agree with you. David Cameron has to be a very good boy. He wouldn't last 2 minutes. Vabbè, traduzione dopo. Deve comportarsi da bravissimo ragazzo o non durerebbe più di 1 o 2 minuti. Ci sentiamo dopo la pubblicità 800 24 00 24. Altri 2 minutes. 2 minutes. You have 2 minutes for Italian radio. Italians, stand up for your rights. Don't be bullied by Mrs. Merkel and awful people like Barroso and Herman Van Rumpy Pumpy. Tell them to go to hell. A dopo, get a your dopo, democracy pubblicità back. Qui Bruxelles, voi Italia, tra poco con gli ascoltatori 800 24 00 24. La trasmissione internazionale. Avete sentito questa? Nigel Farage era sconvolto, Sassoli, da Farage, no? Però sì, ammirato anche da un fiume in piena, ammirato anche da questa capacità di parlare da parte dei britannici, sì. Che no, ma poi con un inglese è proprio perfetto, un inglese incredibile. Inmediato. Sì, quello non mi ha stupito. Mi ha stupito invece il fatto che declama. Sì. Senta, la Sassoli, fine dell'euro, sì, dell'Europa. La fine dell'euro. Le volevo chiedere una cosa, ma da quando non c'è più Berlusconi, si può dire che girando per i corridoi del Parlamento europeo e non solo, lei si sente più a suo agio? Beh, non mi dica questa cosa, perché c'è sempre stata questa cosa che Berlusconi... Decina di giorni, è arrivato Monti, ha incontrato i parlamentari italiani... Aveva il Loden Verde sempre? No, non aveva il Loden Verde, oggi è venuto il ministro della difesa... Il generale, insomma abbiamo diciamo riconquistato diciamo posizioni che erano state vacanti... Berlusconi non vacanti. Il governo italiano non vi filava? Ma qui il governo italiano non c'è stato da diversi anni... Cioè non si vedeva? Non si vedeva mai, e soprattutto non si capiva che qual era la posizione del governo italiano sulle questioni che il Parlamento affronta, crisi economica, le questioni finanziarie, le questioni industriali, i provvedimenti agricoli che in questo momento sono importantissimi. Ma speriamo che ci sia il modo di affrontarli seriamente, però io volevo proprio sentire da lei una sensazione, cioè lei si sente... Prima qualcuno la pigliava in giro o no? Ma lo sa quanti giorni sono che Berlusconi non è più a Palazzo Chigi? Che ne so, 15? 17. Sembra un'eternità. È vero. Sì. E invece sono solo 17 giorni. In questi 17 giorni Monti è venuto in Europa due volte, ha incontrato Merkel e Sarkozy. Beh, certo. Qualcuno dice l'hanno messo loro, ti credo. Mi sembra più vicino all'estinzione del brontosauro. Non è vero. Cioè mi sembra più vicino al brontosauro. Ha incontrato tutte le istituzioni europee. Cioè si respira un'aria nuova. Beh, c'è diciamo la consapevolezza che l'Italia sta tornando a giocare in Serie A. Però c'è anche lei si sente anche più, no? di girare più certamente. A testa alta rispetto a prima. Sto contando i giorni da quando Berlusconi è andato via. Le assegnate sul calendario, cioè, 17 giorni. Cioè, nel senso, la sensazione è proprio quella di girare. Adesso sì, posso dire di essere con orgoglio, italiano. Sono Davide Sassoli, sono italiano. Quello, per esempio, l'ho sentito il giorno prima dell'andata via di Berlusconi, quando qui è venuto Roberto Benigni. Avete visto che festa italiana è stata? Sì, però c'erano anche quelli. È un grande orgoglio. C'erano anche i berlusconiani. C'erano tutti, c'era tutti tutta la rappresentanza italiana, sì. C'erano tutti tanti cittadini italiani che vivono in Belgio. Cioè lei prima un po' si vergognava, no? Ero seccato. Era seccato? Sì, seccato. Di essere preso in giro anche? Se facessi il giornalista riprenderei la rassegna stampa dell'ultimo anno del Parlamento europeo per vedere come i 27 paesi ci trattavano. Cioè come? Malissimo. La cosa più gentile che dicevano di noi, che scrivevano di noi. No, però quello che le dicevano, cioè adesso non dicono più. Il giorno in cui Berlusconi è andato via, i due giornali belgi, uno Le Soir, che è un giornale di centrosinistra, ha titolato a tutta pagina Ciao Berlusconi. Sì, il giornale di centrodestra, sempre a tutta pagina, con la foto grande di Berlusconi, la position démissionnaire. Beh, questa è buona, La posizione del missionario è buona. La posizione del dimissionario. Ma non c'è... Ma lei si sente più sollevato, no? Si respira un'area nuova, insomma, mi sento Bruxelles come... Siamo cittadini europei, ma siamo anche italiani. Appunto. Ci teniamo al nostro paese. Ma non c'è un po' di conformismo nella nostra stampa italiana, in questo appoggio incondizionato a Monti, il Monti style, e paga il biglietto quando va al Quirinale. E va a messa con la moglie, e va dal barbiere, e va col treno, scende dall'Eurostar. E porta il cane Bau Bau a fare la e porta la borsetta. La cosetta del cane per tenere sulla cacchina. Io capisco che per esempio per i comici questo è un grande problema. Anche per i giornalisti. E magari anche per i talk show, perché litigano meno, eccetera. È bastato che arrivasse un signore che si comporta bene, che dà del lei alle persone. Dice che non fa le corna, non dice che la signora Merkel... Tutto sommato è... abbiamo riscoperto le buone maniere, il fatto che si può discutere, non essere d'accordo, discutere, ma senza... scannarsi. Berlusconi è un capone, era un capone. No, però è un meccanismo politico che ha innestato un modello mediatico. Chi non è con me è contro di me. E questo è durato troppo e ha sfiancato. Però è vero che c'è adesso. Guardate questo, che questa descrizione al di là mondo. Del divertimento. Sì, io mi divertivo con Pazzo. Io lo capisco. Ieri quando ha parlato di nuovo di comunismo, anzi facciamo ascoltare, mi sono emozionato. Però al di là del divertimento, eravamo tutti sfiancati. Ma io non io mi divertivo con Pazzo. Beh, anch'io devo essere sincero. Dimmi la verità, anche tu. Era un po' imbarazzante. Poi ci mancava negli ultimi giorni. È tornato col comunismo, ho detto, ho respirato la vecchia aria. Da 17 giorni non sentivo più queste cose. Che parla? Però adesso, salutando. Anche Vespa è spiazzato. Facciamogli sentire. Voglio fare spiazzamento il comunismo. Vi prego, il comunismo. Battuta di Vespa, che dice il comunismo. Sentiamo il comunismo. Con Vespa poi che fa la sua La chiosetta di Vespa. Regia Milano, andate. Questa sinistra che noi ci troviamo purtroppo davanti, che ancora è una sinistra che non sa che cosa sono i valori della social democrazia, che tenta disperatamente di occultare la tragedia del comunismo, ma che invece opera come se l'ideologia comunista fosse ancora l'ideologia che ispira sulla base dell'invidia e dell'odio tutte le loro azioni. Presidente, non le pare di esagerare oggi? No. Ancora? No. Ancora? L'ideologia comunista, no? Guardi, ne sono assolutamente convinto. queste cose. Ma qui a Bruxelles non si sentono queste cose, non arrivano a Bruxelles queste cose. La cosa divertente è chiamare in causa i socialdemocratici. Che è un partito morto e sepolto. Bisognerebbe intervistare Schulz. Grazie a David Sassoli per essere stato a con tutti. Noi. Buona serata. Oh, Alberto da Milano doveva ancora parlare con noi. Alberto? Alberto? Sì, ci sono. Sì, però dall'oltretomba sta parlando, tipo la tomba di Farage. Eccomi qua. No, volevo solo chiedere al signor Nagel, cioè noi, una persona eletta che è il Presidente della Repubblica, si è consultato con delle altre persone elette e hanno deciso di fare il governo Monti. Volevo sapere chi è eletto, chi è eletto la regina, volevo solo sapere questo. Vabbè, la regina non la legge Dio nessuno. Salvi la non regina. Tocchi la regina. Ma che fa? Non mi bestemmia un'istituzione secolare come quella della regina? Lui ce l'ha tanto con gli italiani, dice che non c'è democrazia, e ha detto la regina non avrebbe mai permesso questo. Ok, ma chi l'ha eletta la regina? Cioè noi quando... Ma non avrebbe mai permesso un governo, questo lui ha detto, non avrebbe mai permesso la creazione di un governo non appoggiato, non cioè eletto. Non votato dalle persone, non eletto. La regina è la regina, non può essere eletta, la regina viene nominata. Ma lo so benissimo, lo sanno tutti. Non discutiamo, è sacra la regina. Certo, ma è meglio che un presidente eletto, come il presidente nostro, Napolitano, che è eletto, che si consulti con delle persone elette e decidono di fare una certa cosa in emergenza. Lui dice, meglio in Inghilterra, dove la regina non avrebbe mai permesso. No, dove non esiste, questa possibilità di un governo tecnico. Ho capito. Allora? Allora sto dicendo che secondo me è più democratico che due persone, due gruppi, il presidente e i parlamentari eletti, cerchino una soluzione che non una soluzione venuta dall'alto. Ma qual è la soluzione? Non ho capito. Lei si è incartato. No, bisogna bere l'acqua prima di telefonare. Scusi Alberto, allora, in Inghilterra la regina solo formalmente nomina il premier, perché le elezioni di solito danno un risultato chiaro e certo. E dunque ci sono due partiti? No, ci sono tre partiti. Sì, però di c'è solito... mica Bubù, poi c'è Scilipoti, c'è mica Scilipoti in Inghilterra. Dai, per cui insomma c'è un risultato certo, c'è l'incarico per un incarico. Insomma, la democrazia sia sacra qua, no, tutto lì. Da come la mette giù lui, Lui dice, il presidente Napolitano ha consentito che in Italia si formasse un governo non di persone scelte dal popolo, ma di persone, diciamo, votate però da partiti in Parlamento. Nessuno mette in dubbio la legittimità di questa cosa qui, la legittimità formale di questa cosa qui. Però dice, in Inghilterra sarebbe impossibile. Certo, però il presidente Napolitano che ha fatto questa scelta è una persona che comunque è eletta dal popolo. Sì, d'accordo, ma a parte che non è eletto dal popolo, ma è eletto dal Parlamento. Ma insomma, per noi va bene lo stesso, per carità. Allora, siamo qui da Zanzara, sempre a Bruxelles, 800 24 00 24. Fra poco canteremo, Ma qui c'è un governo adesso, l'hanno trovato il governo? Sono messi d'accordo? No, i fiamminghi e i palloni? No, ma non è solo fiamminghi. Perché non dedichiamo una puntata a questa questione? Sì, così vuoi fare spegnere la radio? Vuoi fare chiudere definitivamente la radio? Un problema fondamentale. Senti, vorrei che tu leggessi... La gente che è in macchina in questo momento ci sta chiedendo, ma che cazzo succede in Belgio? Perché i fiamminghi e i palloni? No, non si chiedono questo. Non si chiedono questo. Allora, fra poco canteremo, perché c'è un'iniziativa molto bella presa da un benefica. A scopo di beneficenza che ha coinvolto diversi parlamentari europei, in particolare uno, anzi due, che avremo qui ai nostri microfoni. Però l'ispiratore è uno, però io vorrei che prima tu leggessi, caro Parenzo, quello che ha detto il neo ministro Patroni Griffi, ex capo di gabinetto di Brunetta, a proposito del suo doppio stipendio. Patroni, Griffi e i due incarichi, scelta del Parlamento. Cioè, è il Parlamento che ha consentito che il signor Patroni Griffi, ex capo di gabinetto di Brunetta, neo ministro della funzione pubblica, abbia due stipendi, cumuli. Risponde così all'ottimo Fabrizio Roncone sul Corriere: il cumulo era previsto già dalla precedente normativa, tanto che già cumulavo legittimamente la retribuzione da consigliere all'indennità di membro della Civit, senza svolgere attività lavorativa presso il Consiglio di Stato. Soddisfatto? Chiede ironico Patroni Griffi, e giustamente il cronista Roncone risponde: con il rispetto dovuto, caro ministro, no, perché resta il fatto che una norma fatta su misura per lei, ministro. Su misura? è l'unico forse ad usufruirne, chiede il cronista. E lui: sono l'unico, sì, ma solo perché il presidente della Civita, Antonio Martone, già magistrato in Cassazione, è ora pensionato. Non fosse stato in pensione, avrebbe goduto di questa norma anche lui. Vabbè, insomma, prende due stipendi. Questa prende due stipendi. Ma forse perché sono in due, sono sbagliato, perché sono Patroni e Griffi. Ah, ho capito. E per questo c'ha due stipendi. Ah, per questo. Beh, sì, per questo sì, la ragione, la razza è questa, della norma. Cioè, Patroni, c'è il signor Patroni e il signor Griffi. E poi quindi uno stipendio per il signor Patroni, l'altro per il signor Griffi. È con noi Tiziano Motti, buonasera. Buonasera. Europarlamentare dell'UDC, perché fai gli applausi? No, gli applausi con i finti, da mettere sotto. Beh, un giornale titola così: l'eurodeputato Canterino sforna un CD per telefono azzurro. Un giornale di Reggio, che è la sua città. Così la domanda. Le vogliono bene. Grazie molto. Europarlamentare, eurodeputato Canterino. Canterino. Beh, in questo CD infatti c'è una canzone dell'onorevole Motti. Possiamo farla assaggiare? Facciamola sentire, è un Vasco Rossi, l'abbiamo già fatto sentire più volte qui live. Vasco Rossi, vai. Vivere so che tu di comunicazione con la regia Bruxelles, la regia è belga, fiamminga e vallona, la regia, no? Allora, questa qua è la voce di Iva Zanicchi, come è evidente. Sì. L'altra sarà la voce di Tiziano Motti. Mettiamo la seconda. The next one. Next one. Great. Inizia? Arriva. Quanto dura? 40 minuti? Sono solo 50 minuti di introduzione. Ecco, poi no, perché noi alle 21 dovremmo chiudere la cena con... È qua. E ogni volta che vieni giù... Ma è uguale. Ogni volta che ritorno... Ma questo è Vasco? No, questo sono io. Ma ogni volta che cammino e mi sembra averti vicino... Volta che vi guardo. Beh, non è male. Effettivamente è l'onorevole Motti. Onorevole eurodeputato Motti dell'UDC, che insomma all'interno di questo CD dà il meglio di sé nel canto. Se è il meglio, però, visto che c'erano così tanti cantanti e l'idea di fare questo CD alla fine è stata una mia idea, insomma. Mi sono premiato con una, ma perché mi ha portato fortuna in campagna elettorale cantare Vasco Rossi. Lei sa che ho fatto la campagna elettorale da solo, poi all'ultimo momento candidato all'UDC, prima anche. Si voleva candidare per il PDL, poi all'UDC. La realtà è parte della preistoria. Stiamo parlando di questo CD. Parliamo del CD, dai. No, sì, adesso parliamo anche del CD, naturalmente. Okay. Però lei quando è che ha scoperto di avere questa voce? Questo perché talento? Ha sempre cantato? Lascia stare il talento. No, non ho mai cantato. Però mi divertivo a fare il DJ quando ero un po' più giovane. Quindi i capelli sono rimasti più o meno gli stessi. No, erano molto più lunghi. Molto più lunghi. Col codino anche. Cioè, però no. C'è ancora questa, no? Ancora questo. Ma sai, ti rimane. Il physique du rôle. Un po' perché rimani attaccato alle vecchie passioni, un po' perché ti vuoi sentire ancorato ai bei ricordi del passato. Non si vuole mai smettere di essere giovani, diciamo la verità. Ma è giovane Motti alla fine? Beh sì, del non che non mi ricordo. No, ma sono, quindi lei, cioè lei canta poco più che 44 anni. In questo CD lei canta con Tozzi, che è veramente Tozzi, Ruggeri, il signor Povia anche, cioè, sì, no? Sì, c'è Povia. Quello sì, che Povia. Canta Luca era gay. Però adesso sta con lei. Adesso canta in Non Passi, che è un'altra roba. Non Passi cosa? Ma insomma, ha reclutato una serie di persone che gratuitamente hanno dato la loro voce, sì. Hanno offerto le loro canzoni per una causa che è quella del telefono azzurro, eccetera, eccetera. Per una doppia causa, quella di parlare del Parlamento europeo e delle istituzioni europee, perché questo è un CD multimediale. Quindi dentro uno si guarda i filmati, capisce cosa facciamo qui, come lavoriamo. O quello che uno non fa. O quello che uno non fa. Quello che fa nell'interesse dei cittadini. Quello che funziona e quello che non funziona. Perfetto. Sinceramente, secondo lei guarderanno i filmati sulla storia? No, sinceramente, perché adesso che uno, cioè, se mette la musica, giustamente la mette perché capisce che attrae giovani, esatto, no? È ovvio che quando è stato uno si ascolta Vasco Rossi o il signor Povia. No, non c'è, no, però non diamo informazioni sbagliate, perché dire ascolta Vasco Rossi e poi sembra che c'è ascolta Vasco Motti. Che è così, è uguale, praticamente uguale. È identico. Va bene, c'è Lanzanicchi, c'è Motti che canta una cover di Vasco. Okay. C'è Marrone, Carboni, Povia, Masini, Carta. Vabbè, insomma, serve a far conoscere il Parlamento europeo e a dare la musica, soldi al telefono azzurro. Questo è il punto. Qui il CD lo regaliamo al Parlamento pagamento europeo ai visitatori. Mentre in Italia 10 euro quasi, in Italia costa euro. 9,90 in edicola e nelle rivendite di CD, insomma, di dischi, e questo va tutto, non gli utili, i ricavi. I ricavi, cioè, non i c'è ricavi. Tutti al telefono. Cioè, lei quanto è costata questa operazione alla fine? Questa è un'operazione da 25.000 euro. Ma che l'ha tirati fuori lei o il Parlamento europeo? Lei, io chiedo. Io come Fondazione Tiziano Motti. Non il Parlamento europeo, quindi no, non ci sono soldi guai, pubblici. Guai. Io glielo chiedo, che devo fare? No, va bene, perché è un'anomalia, ha ragione, no, è un'anomalia che... Ci sono quelli che usano, no, lo spiego, perché ci sono sì. soldi che vengono destinati all'attività parlamentare, certo, che voi utilizzate per promuovere la vostra attività. Sì, mi garantisce che non avete usato quei soldi là? Figuri, al 100% e con bilancio certificato, perché poi sarò ovviamente... Apriremo l'inchiesta su questo. Ma faccia, no? Guardi, io sono... Stiamo già portando le carte. Pensi che è anomalia, il deputato che paga e non viene pagato, incredibile, no? Questo è curioso, in effetti. Allora, sta bene lei? Sì, si sente bene? Perché in Italia va un po' diversamente. Ma devo aver preso un colpo di sole quest'estate. Traffico però, torniamo subito. Eccoci qui. Beh, io voglio risentire però, perché abbiamo già fatto ascoltare una volta la Zanzara qualche mese fa. Per chi se lo fosse perso, Tiziano Motti che interpreta, eurodeputato dell'UDC, che interpreta in maniera direi splendida. Ma quanto ci ha messo a fare questa cosa? Le viene così automatico oppure è tutta ritoccata? Proprio la voce canzone? Anche, cioè l'intensità. No, abbiamo fatto due pezzi, uno non l'abbiamo inserito. Uno è Vivere e devo dire l'ho cantato almeno 10 volte prima di trovare una formula che mi piacesse. Questo invece ogni volta ho fatto al primo colpo, perché è la mia canzone del cuore. Eh certo. E quindi quando io vorrei risentirla e vorrei dedicarla a tutti coloro che si amano. Radio Bubù. Però vorrei dedicare questa canzone. Prendetevi per mano voi che siete in macchina, imbottigliati sul grande raccordo anulare e non riuscite a tornare a casa. Ma siamo al Parlamento europeo. E siete al telefono con la vostra fidanzata che vi chiama, dall'altra parte c'è vostra moglie che vi stressa e voi volete dedicare questa canzone. Tiziano Motti interpreta Vasco Rossi a tutti voi che vi amate o che siete sul tapirulano. E ogni volta che viene giorno, ogni volta che ritorno, ogni volta che cammino e mi sembra averti vicino, ogni volta che mi guardo intorno. Adesso lei mi deve spiegare come ha iniziato, perché anonimo Emiliano lei, anonimo Emiliano. No, quella era una scommessa, allora cioè, le spiego. Sai tutto, cioè, sull'onorevole Motti. Io mi sono accorto, uno che parte da anonimo Emiliano e arriva al Parlamento europeo. Questa è una cosa grandiosa. Da anonimo Emiliano, no, magari da qualche puntatina in discoteca, da qualche cosa con gli amici, dai video che si trovano, qualcuno lo potete trovare su YouTube, una campagna elettorale garibaldina, bussando porta a porta, facendo discoteche, spendendo un po' di soldi. E arriva nell'UDC bussando alla porta del PDL, no, non c'è possibilità. Poi invece Demita. Vabbè, e invece poi Parlamento europeo, come si fa? Si parte da anonimo. Allora, no, funziona così. Ognuno di noi ha una parte istituzionale, una parte in cui fa le cose che gli piace fare. Allora, certo. E prima di fare Però lei c'aveva solo quella prima. No, calma, non è che andavo in giro a cantare. Io sono un imprenditore, no, certo, che lavora nel mondo della comunicazione e sì. Presidente anche di un'associazione che si chiama Associazione Europa dei Diritti, che ha 100.000 associati, sì, e che difende i diritti dei cittadini. Questa è la parte che mi ha portato poi alla sfida politica. Sì. Dall'altra parte, per scommessa, mi piace fare le cose che mi dicono che non riuscirò mai a fare. Allora, visto che mi piaceva Vasco e lo cantavo tra amici, no? Ci facevamo il karaoke così, mi hanno detto: tu non avrai mai la faccia tosta di salire su un palco e cantarlo in pubblico. Sì. Allora mi sono iscritto al Festival Show nel, credo fosse 2006. Festival Show? Non è il Festival Bar, è un festival importante che si fa in Veneto, insomma, sì, sullo stile, così. E sono andato sul palco e mi sono cantato una canzone lì, e facendo capire che non avevo, mi sono mascherato da anonimo Emiliano, cioè non è che mi presentavo Tiziano Motti canta, si vergognava un po', non è che mi vergognavo, volevo evitare di sovrapporre il mio lavoro, dice vediamo come va, poi casomai casomai sbuco fuori, c'erano le telecamere, la faccia c'è, è su internet, non è un problema, però non volevo fare il cantante di professione, quindi l'ho fatto per scherzo, ho vinto la scommessa. E poi quando abbiamo invece impostato la mia campagna elettorale, quando ho deciso di accettare di mettermi in campo per l'Europa, anche lei, ognuno nel proprio piccolo, cioè chi scende e chi mette, vede che ci sono delle analogie, no? Sì, si cambia, chi va, chi viene, infatti, insomma, cioè, poi vi sfido, perché da Monti a Motti il passo è breve, vede, anche l'assonanza, c'è una N e una T, Monti Motti, potrei governare come meglio di Monti. Però potrebbe fare Presidente del Consiglio. Ma insomma, vediamo nel futuro con calma. Come vediamo tra una canzone e l'altra, insomma, non corriamo. No, torniamo alla musica. Monti Motti. Monti, Monti. Torniamo alla musica. È stata una sfida così, insomma, per giocare, però è bello ogni tanto anche fare delle cose. Poi vedi, mi hanno detto, sì, cosa farai una figuraccia, perché un candidato al Parlamento Europeo, persona che deve essere seria, deve trasmettere dei valori, eccetera, non va sul palco a cantare una canzone di Vasco Rossi. Invece io credo che bisogna essere quello che si è, fondamentalmente. Ma perché poi la gente ti premia quando capisce ma che sai scherzare, sai giocare, ma sai fare anche cose. Ma noi abbiamo importanti. Fatto una gara qui tra deputati italiani di canto, tra poco presenteremo il vincitore, tra l'altro, che viene qua a farsi giudicare dalla signora Zanicchi, quando la signora Zanicchi si arriverà qui. Però scusi, volevo capire, la canzone, cioè Povia, la canzone Luca era gay, potrebbe diventare secondo lei l'inno dell'UDC, visto che lei è un... perché tu Luca, ma è un anno l'inno, possiamo un farla altro sentire? L'inno... No, allora, facciamo sentire facciamo Damiano sentire... l'inno dell'UDC. No, voglio far sentire Luca era gay. No. E poi capire se questa l'inno, prima essere... l'inno dell'UDC, prima l'inno dell'UDC, per farlo giudicare a Tiziano Motti, che è un esperto a questo punto, perché sa interpretare Luca era gay, però è un inno agghiacciante quello, lei lo conosce, non sa l'inno dell'UDC. Penso che sia quello che si sente quando telefoni anche, che no, ma lei lo sa chi è l'inno dell'UDC o no? Lo sì, sa no, come sentito. Chi l'ha scritto? L'ha sentito quando chiama, ma non sa è quel è. Cantante che si occupa del non lo sa, non lo sa, no, come lo so, non certo, lo lo canto lei è dell'UDC, non sa che lo canto tutte le mattine. Non diciamo delle bestialità, è andata così bene l'intervista per ora, lo canto tutte le mattine. Mi sveglio, mi sveglio, onorevole amico mio, di che parliamo? Lei non conosce l'autore del libro dell'UDC, diciamo la verità, perché è una persona per bene, perché è una persona per bene, è una persona normale, il libro dell'UDC è agghiacciante, non è agghiacciante, andrebbe un attimo ricantato, modernizzato. E poi Povia, che secondo me dovrebbe diventare l'inno dell'UDC. Da Milano, pronti? Avete trovato l'inno dell'UDC? Ma chi è nato? Pace e libertà. Vedete che la so? Il nostro sogno. Non la sa. Non... Il nostro sogno diventa. Sapevo le prime tre parole. Se da questo è importante. Migliore batte parte qua. E certo, della passione, e nasce la passione. La nostra libertà. Beh, scrivetemi gli autori che io manco me lo ricordo da Milano, perché io sono, come dire, legittimato a non ricordarmelo. Lei no, ma dice ci batte forte il cuore, poi appare Luca Cesa. Sardella, si appunti questa cosa, Luca Sardella. Sì, no, ride, però guardate, ride anche Mao, dice ci batte forte il cuore, poi ti appare Cesa. Ma non ti batte forte il cuore se ti appare Cesa, amico mio. Non batte a lei, cioè, ma no, è lei, non mi dica che lei si emoziona, si emoziona quando vede Cesa. Io alla mattina srotolo il poster di Cesa e canto l'inno. Ma lo facciamo tutti, credo, anche il presidente. Sì, lui si sveglia la mattina, guarda Cesa e canta, lo facciamo tutti. No, adesso scherzi a parte. Innanzitutto non ricordavo il cognome, ma ho detto che era quell'autore. Vabbè, che si occupava anche di verde, non di pollice so, verde, non eccetera. Non, certo, non conosco un personaggio l'inno famosissimo. Non conosco l'inno. Ma non è un reato non conoscere l'inno dell'UDC, eh? No, ma è una bellissima canzone. Poi il cuore è una cosa fondamentale, la passione in politica è una cosa Barbato? Fondamentale. Barbato? Dove, sì. Dove si trova? Dove si Io trova? In questo momento sono a Roma. A Roma, i capelli come vanno? I capelli stanno già ricrescendo. Vabbè, ho capito, però... Onorevole Barbato, come Italia dei Valori. Come la mettiamo? Come sempre, come la mettiamo qua. Noi non cioè, lei mai, se li vuole far ricrescere... Se li vuole far ricrescere come prima, diciamo la verità. Beh, il mio look è quello con capelli lunghi. Li ho dovuti tagliare per un impegno assunto e quindi per mantenere la parola data. Ma preferisco Senta, tenere ma i miei... ma... Dimmi. I vestiti sono sempre i soliti che lei porta in Parlamento, così eccentrici. E no, ne parli con l'onorevole Mussolini, che ogni volta è sconvolta. Ogni volta è sconvolta dal suo abbigliamento, onorevole Mussolini. Beh, è sconvolta perché io vesto in modo moderno, con colori anche moderno, insomma. E certo, piacevoli, sportivi, chiamiamoli come vogliamo. Che devo mettermi un frac per andare in aula? Il regolamento dice che bisogna tenere la giacca, la giacca in Parlamento, basta, no? No, assolutamente. Senta, Barbato, ma ci ricordi un po' la canzone che vinse la gara ormai famosissima della Zanzara tra i deputati? Sì, insomma, la sua canzone alta preferita. Marea, Alta Marea. Vada con Alta Marea. Che ieri mi volevano far rifare in un'altra trasmissione radiofonica. Ma lei si è rifiutato, bravo. Allora, l'onorevole Franco Barbato canta Alta Marea. Già vincitrice del concorso per i deputati cantanti indetto dalla Zanzara. Dedicata Vada, a Barbato. Tutti coloro che si amano e che sono fermi sul grande raccordo anulare. Vada. Ma non c'è neanche un po' di musica di fondo? Sì, la base, no? Da Milano, mandatemi la base. La base, dobbiamo dire tutto. Ha ragione, Barbato. È proprio così artigianale. senza un minimo di accompagnamento. Ma ha ragione lei. No, ha ragione. Basta, chiediamo, c'è o non c'è? Chiediamo scusa. Eccolo qua. Vai, vada. Come l'alta marea che riappare e scompare portandomi via. Mamma mia. Sei il mistero. Un non profondo. La passione, l'idea. Sei l'immensa paura che tu non sia mia. Ghiacciante. Più su, lo so, lo sai, vola, ma quanta strada per rivederti ancora, per uno sguardo, per il mio orgoglio. C'è Venditti che sta facendoci causa, eh? Quanto ti voglio. È appena arrivata la querela di Venditti, tutto finito. Povero Antonello, stiamo scherzando, Antonello! No, non continui! Come l'altra marea! Dai, che riappare, scompare portandomi via! No, portatelo via! Ma no, se il mistero solo lo sai! La passione è l'idea, se l'immensa paura che tu non sia mia! Ma dove stai? Siamo persi, abbiamo tempi diversi? È tutto finito! Ancora! Come l'alta marea che riappare e scompare portandomi via. A Montecitorio una macchina in zona, grazie. Sei il mistero profondo, la passione e l'idea, sei l'immensa paura che tu non sia mia. Una macchina subito, ambulanza, per cortesia, onorevole Barbato. Sai, ripeto, il tempo vola. Ultima chiamata, prego. Ambulanza. Strada, per rivederti ancora, per uno sguardo, per il mio orgoglio, quanto ti voglio. La solo finale. Vai col finale. Per dirti quanto ti voglio. In diretta da Montecitorio, onorevole Barbato. Italia dei valori, forza. Grande Venditti. Grande. Grande, forza. Eccoci qui di nuovo in diretta, da Bruxelles, siamo in diretta, non sento nulla, senti? Io non sento niente. Io sento, però ti posso... Io non sento niente, va bene lo stesso, 800 24 00 24, andiamo con Giuseppe da Roma, buonasera. Buonasera a lei. Niente, il mio intervento era su una considerazione sul governo Monti. Voglio dire, volevo solo fare questa riflessione, che magari io sono completamente d'accordo e apprezzo molto quello che ha detto Farage. Nigel, your English is disgusting. Voglio dire solamente che a mio avviso, cioè, Monti è stato l'artefice, uno degli artefici, perché ai tempi era commissario dell'Unione Europea per Monti o Motti? Per l'introduzione dell'euro, no? E voglio dire, siamo così, come dire, con gli occhi bendati dalle fette di prosciutto, da salumi vari, per non capire che in realtà è l'artefice che in questo momento viene trasformato. Lei dice le stesse cose di Farage. No. Lei dice le stesse cose che dice Farage, cioè hanno messo a capo del governo italiano un fantoccio, che era un fantoccio secondo Farage, diceva uno degli architetti dell'euro, artefice, diciamo, del disastro dell'euro. Va bene, d'accordo, ho capito. Grazie. Andrea da Milano, buonasera. Andrea, mi sente? Che fa? Sì, ecco, buonasera. Che sta facendo? Il telefono va messo vicino. Sto lavorando. Che senta. Fa? Che fa? Che fa di lavoro? Taxista. Ah, il tassista, grandissimi tassisti. Saluti a tutti i tassisti. Saluti a tutti i tassisti che in questo momento ci stanno ascoltando. Sì, Roma, Milano, grandi città, piccole città. Tutte le sere Parenzo. No, non dica così. I tassisti amano Parenzo. Molti adorano Parenzo. Altri mi odiano perché io vorrei liberalizzare tutto, quindi mi odiano. Però quello anch'io, che c'entra? Però, anche tu vuoi liberalizzare? Sì, però io sono sempre molto vicino ai tassisti. Anch'io sono dalla parte dei tassisti sempre. Sono sempre dalla parte dei tassisti che fanno un lavoro durissimo. È vero. Che hanno la schiena spezzata. È vero. Che rischiano. Insomma, io sono sempre vicino ai tassisti che ci ascoltano ogni sera e che abbracciamo fortissimo. Fortissimo. Andrea, allora? Allora, Parenzo, che si sciacqua sempre la bocca con la parola liberalizzazione, privatizzazione. Ma anch'io, che c'è? Certo, liberalizzare tutto. Parenzo è... Anche il mio ordine, via, abolire l'ordine dei giornalisti. Via, ordine dei giornalisti abolito. Abolire l'ordine di varie cose, ma... le banche non sono già liberalizzate, ma le compagnie petrolifere non sono già liberalizzate, e vi sembra che la gente sia contenta cartello di quello che ne risulta? Ma che c'entra? Ma io sono per la liberalizzazione di tutte le professioni, albo dei notai ad esempio, via, notai si cancellano subito, una casta, via, notai, via. Architetti, via l'albo, subito, via. Forse solo quello dei medici. Purtroppo ha senso. Il neo ministro della giustizia Severino ha detto che nessuno ha mai parlato di eliminazione degli albi professionali, degli ordini, eccetera. Iniziamo molto male, caro ministro, molto male. Non è che iniziamo male, è che non è che ci vuole un governo tecnico, deve fare le grandissime riforme. Scusa. Deve rivoluzionare, non deve fare le riformicchie. No, ma io capisco che il tassista non è un notaio. Giusto, Motti, mica la verità, lei che viene dal basso, viene giusto. Lei tassista. Che si è fatto da solo, che non è che è stato aiutato da qualcuno. Non è qui così perché è stato messo da qualcuno lì, si è fatto da solo, faceva anche facevamo tutto, possiamo dirlo, sì, cioè lei sì. Era un anche cameriere. A lei non piacciono le professioni, no? Le burocrazie, lei era un cameriere, possiamo dire questo, lei certo. ha fatto il cameriere, ho fatto mille lavori mentre da giovane cercavo di trovare la mia strada e ne ho fatti tanti, e questa è una grande risorsa perché poi impari l'arte e la metti da parte, ti fa conoscere il mondo. Ma anche a lei non piacciono troppo gli ordini professionali? No, sono con voi, liberalizzerei anch'io, anche perché poi il fatto che una volta liberalizzata la cosa non funzioni comunque non vuol dire che era sbagliato il concetto di liberalizzare. No, beh, certo. E sono d'accordo sul fatto che un governo tecnico deve, perché è l'unico che può fare quelle riforme che un governo politico non può fare. Lo so, però qui si traccheggia un po', mi sembra. Adesso vedremo a giorni. Un attimo, Però se non lo fa un governo tecnico non lo farà nessuno, perché perdi voti quando fai delle riforme che fanno male alla gente. Questo è vero. Allora, però l'altra volta abbiamo fatto con lei un test, che è quello, il test di appartenza all'UDC. Non andò tanto bene, mi che ricordo. Meraviglia. No, non è vero. Cruciale. Beh, non andò benissimo. No. Ma è normale che ci vuole il dissenso all'interno Attenzione. Di un partito, altrimenti se non ci fosse dissenso sarebbe la fine. Ma dissento totalmente, perché? Vi spiego anche il perché. In campagna elettorale mi prendevano tutti in giro perché io dicevo che, a mio parere, la politica moderna non doveva essere fatta di destra, centro e sinistra, ma di persone che vogliono risolvere i problemi della gente. Vabbè, lo dicono tutti. No, adesso lo dicono tutti. Ma è sbagliato. Vabbè, allora non ho capito qual è il punto. E quindi non è che io non ho superato il test quanto sei dell'UDC. Vabbè, questo è un test fatto da noi, non è che sia un test molto farlocco. No, è il suo, no, però voglio dire, l'UDC si evolve. Voglio dire, se passa dalla sua percentuale e arriverà ad essere, perché lo arriverà ad essere, un partito particolarmente importante, sarà perché si evolve. Appunto, per accogliere anche opinioni che non sono perfettamente aderenti a quella che è la tradizione dell'UDC, eccetera. Ecco, sulle unioni gay, che lei espresse delle cose. Sarebbe favorevole, lei è uno dell'UDC che sarebbe potenzialmente favorevole all'unione gay. E a questo proposito, il nuovo inno dell'UDC ve lo possiamo far ascoltare. Ma perché sei fissato con questa cosa di Povia? Perché? Il nuovo fate inno ascoltare c'è Povia, Iva Zanicchi. Prima, aspetta, frena un attimo. C'è Povia. Mentre entra Zanicchi, mentre fate ascoltare Povia, prima precisiamo che è l'unione gay. Io non sono certamente contrario al fatto che due persone che si vogliono bene possano vivere insieme. E dunque anche avere dei diritti, anche unirsi in matrimonio. Ecco, no, non ho detto. Matrimonio no. No, vede che quindi il mio essere progressista ha ovviamente delle... Però lei farebbe una cosa alla francese, insomma, come in Germania, cioè proprio un'unione civile. Ma neanche, no, dobbiamo riconoscere... E che devono fare allora? Niente. Allora, dobbiamo riconoscere dei diritti a una situazione che... fino ad oggi non era prevista. Studiamo che tipo di diritti riconosce. Chiaro. Allora, test dell'UDC per onorevole. Ma non c'è l'inno, il nuovo inno dell'UDC? No, l'inno dell'UDC non c'è. Lascia stare Povia. Allora, componenti della segreteria nazionale dell'UDC. Sì. Allora, componenti, chi c'è? Sono? Segretario chi è? Cesa, vabbè, okay. Questo era facile. Però, ragazzi, però nel simbolo c'è Casini. Presidente. Ma avete notato? Sì, Buttiglione. Però Presidente, ma questo è per la ringrazio per il test. Ma è un test eccezionale. Ma rischia tutto, è un po' che hanno smesso di farlo. Lo so, no, infatti, però, noi lo stiamo introducendo. Sapete piuttosto che cosa direi? Il segretario amministrativo. Come però si posso dire una cosa, aspetta, accidenti. Però non potete fare così. Perché? Ma perché se poi non ti viene. Pensi che. Vabbè, no. non viene. Guardi, glielo dico. Io dico, ho incontrato Pier Ferdinando Casini 20 giorni fa. Che ruolo ha nel il presidente? Lui presidente, chi è Pier il presidente Ferdinando? Casini, il presidente Casini, no, il presidente, so insomma, presidente. Sì, infatti, ma è presidente lo stesso. Quando in estate l'ho incontrato, rimane presidente. Esatto, per sempre, come l'onorevole, no? Che rimane onorevole a vita. Allora gli ho detto, io ho un terrore, c'è solo una cosa che mi spaventa, cioè? Che improvvisamente in diretta mi facciano delle domande e io, la prima cosa che mi accade sempre, mi scordo i nomi, allora per favore cambiamo registro, perché avete beccato. Allora, lei non conosce per esempio chi è quello che amministra i quattrini dell'Udici, ma questo certo, le fa onore. Naro. Vede che lo so, è solo che mi... un suggerimento da qualcuno. Ma che è un suggerimento? È perché mi prendete... Il capo della segreteria politica... l'ha suggerito io! Il capo della segreteria politica chi è? Il capo della segreteria politica, come si chiama? Non mi viene in mente. Antonio De Poli, il vice segretario nazionale chi è? Chiedo scusa a Antonio, perché non lo conosceva, però non fa niente. Il vice segretario nazionale è il grande, e non solo il capo della segreteria politica, insomma, è anche il vice segretario nazionale chi è? Esatto. Possiamo parlare di Iva un attimo? Il vice segretario, ma scusa, non dobbiamo parlare di un disco che ha realizzato Zanicchi, si metta le cuffie. Ma ragazzi, aspetta un attimo, dalla mia segreteria, per cortesia, portatemi l'elenco, sennò faccio una figura qui. Al governo chi c'è? Al governo chi avete adesso? Mi pare ci sia un certo Monti, ma perché mi somiglia. No, certo, questo qua è Monti. Basta. Iva, cosa volevi dire? Come sottosegretario, chi c'è dell'UDC? Chi è il sottosegretario dell'UDC? No, qua non mi beccate in castagno, ragazzi. No, i sottosegretari sono tutte figure tecniche, non sono figure politiche. Però, è inutile però, che vabbè, però. Via, traffico, ragazzi. Torniamo subito, grande conclusione con Iva Zanicchi. Buonasera. Non dovevo essere qua, vi chiedo scusa, sono arrivata in ritardo, vabbè, ma mi hanno chiuso dentro a un camerino. Chi c'era nel camerino? Chi c'era? Zanicchi, sola, io. Ma che fa? Ma perché lei partecipa ancora alle riunioni? Sono tutto inutile, tutto finito. Lo vedi che chiamo gli uffici ancora camerini? E qui bisogna che mi decida a fare qualcosa. Traffico, mandate il traffico. Sento nulla, adesso comincio a risentire in questo momento. 800 24 00 24. E vabbè, allora introduciamo Iva Zanicchi in questo modo, perché ha cantato la mia vita, va bene? Comincia a urlare. No, questa cuffia non funziona. Un volume pazzesco. Vabbè, saranno stati i comunisti. Lo tenga una. Ma esistono? La prima domanda è questa: sì. Esistono ancora i comunisti? Certo, ne abbiamo uno qua davanti, eccolo lì. No, Parenzo. Davide, come no? Sta indicando ma Parenzo, no? Non me. Ma io guarda che amo. Tu sei comunista nel midollo, proprio nelle ossa. Tu sei. Cioè, quando Berlusconi dice adesso che ci sono ancora. Quando Berlusconi dice adesso che ci sono ancora i comunisti. Lei dice sì, è vero, ha ragione, ci sono ancora i comunisti. Ci sono ancora i comunisti, ma dove stanno? Ma vogliamoci bene, io amo i comunisti. Guarda, ma come amo i comunisti? Ma sì, ho incontrato una sera, abbiamo fatto il viaggio assieme, aspetta il cognome, non me lo ricordo, che è una donna meravigliosa. E che è comunista? È Luisa, che è stata parlamentare per 2 anni, andava sempre in Africa. È comunista. Ah, la Luisa Morgantini, l'onorevole Morgantini. È una donna meravigliosa. Vabbè, siamo amiche. Non è che come dice Berlusconi, l'opposizione è comunista, c'è ancora il terrore dei comunisti. Questo beh, no, dove conta ci sono. Dove conta ci sono i comunisti? In televisione, nelle trasmissioni, in radio, alla Zanzara. Lasciamo per. Basta parlare di Berlusconi? No. L'avete tartassato per 15 prima anni? Della canzone, lo lasciamo in pace un attimo? Prima della canzone, ma dice che non vuole andare via, vuole battagliare. Un attimo. Allora, prima di ascoltare Iva Zanicchi nella splendida interpretazione per questo CD importante per i bambini, che verrà realizzato da Rovole Motti, che verrà presentato sabato a Reggio Emilia. A Reggio Emilia. Zanicchi qua canta dal vivo, è proprio una cosa cotta e mangiata, così, è proprio dal vivo. Però adesso vorrei che lei dedicasse una canzone, non la di partita di Berlusconi, perché Berlusconi non può, come dire, però l'addio alla politica. L'addio alla politica di Berlusconi. Ma voi siete alla politica. Io ti dico una cosa, dato che io sono una maga, una strega, tra sei mesi avanti, andranno a piangere da sotto le finestre di Berlusconi, ma le piace, pregandolo di tornare. Ma chi andrà a pregare? Ma chi? La gente. La vera gente. Ma Monti, le piace Monti? Monti è bello, come uomo. Monti è una persona molto. È più bello Monti di Berlusconi. No, è troppo triste, guarda. Come triste? è triste, Monti triste. È troppo magro, troppo triste. Mi piace, per l'amor di Dio. Come troppo magro? È magri- no, que- beh, elegante. Io vorrei dire alla signora Elsa qualche piacere. La moglie di Monti. Sì, la moglie di Monti. Sì. No, mi piace, adoro Elsa perché il nome è anche della mia mamma. Bello, della sì. mia. Allora, qualche piatto di tortellini. Non gli farebbe male. I consigli di Ivan Zanicchi al governo. Scusi, mi dica, cioè, se deve pensare a Monti, a cosa pensa lei? Sì. Cioè, come figura, come persona? Cioè, anche fisicamente. Un po' magretto, lei ha detto. Sì, un po' tristanzuolo. No, è un po' triste, però ha una figura molto elegante, un portamento assolutamente elegantissimo. Proprio da professore. Da professore. Un professore, ma di quelli, sa. Ecco, bravo. Io vorrei che ci fosse la televisione in questo momento per vedere quest'uomo che c'ha dello stesso tempo due palle così, giusto? Però, ecco, tu dici, però pure che lui è un uomo preparatissimo, io non sono neanche in grado di l'unica cosa che per me è quando l'uomo parla. Giusto nel momento giusto, lui è un uomo. Vabbè. È un po', dobbiamo chiudere, la canzone per Berlusconi, un po' lento a parlare, lentino a parlare, la canzone per Berlusconi, dipende quello che deve fare. Dammi la mano e sorridi senza piangere. Arrivederci. Questo perché lui, arrivederci, tra poco tornerà, perché noi lo vogliamo. Ma è un incubo, noi chi? Noi chi? Ma noi chi? Lei anche tu. Come fai a parlare? Com'è che senza di lui? Com'è quella cosa lì della pecora? Della cosa, no? Della pecora? La solo pecora quello. È un animale che non si. È come il maiale, non si butta via niente. No, qual era quella cosa là? Me la deve dire per forza. La frase è fondamentale, non la ritrovo più. Stai fresco che io te la dico. No, me la dica, non la trovo più. Le donne, frego. Le donne vanno meglio. Eccola qua. Che belano, ti donne. Puoi portare a letto solo questa, mi deve dire solo questa frase. Ma non è vero che ti puoi portare? L'ho detta 6 mesi fa. Ho detto potrebbe portarsi a letto anche una pecora, però le pecore devono belare in camera da letto e non fuori. Non nelle istituzioni. Era una battutaccia, ma io l'ho detta 6 mesi fa, me l'hanno riportata ora. Ma vergognatevi. Berlusconi è un uomo. Che fa? È un uomo? È un uomo? Con le palle, hai capito? Ma vere! Ma come? Ma è Monti anche! Sì, anche Monti. Anche Monti. Per l'amor di Dio. Lo dica con lo stesso entusiasmo con l'altro di Berlusconi. Monti è un uomo? No, Monti è un grande. È un personaggio giusto al momento giusto, è un grande tecnico. Però Berlusconi è un uomo? Al governo bisogna mandare le persone votate, come Ivan Zanicchi, che ha preso pochi voti, ma erano sinceri veri. Basta. Grazie, ciao, a Tiziano Motti, grazie Ivan Zanicchi. Grazie Ivan Zanicchi. Ci sentiamo domani 18:30 alla Zanzara, non ce la faccio più. La Zanzara è il titolo più di merda del mondo. Soltanto tu potevi inventarti un titolo del cazzo come quello. Soltanto tu.